Sessualmente è ambiguo, perché da quello che fa capire gli piace anche un trans. A me il trans proprio non esiste. A Cruciani piacciono i trans? Ma lui l'ha dichiarato, cioè che se dovesse capitare un trans non avrebbe problemi. Quando chiama quella turca, il turco, come si chiama? Efebal. Eccoci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. Efebal. No, non ho detto gioia. Ma i decreti Salvini sono legge, ministra, sveglia ministra Morgese, sveglia, ti diamo una notizia, i decreti 1 e 2 di Salvini sono legge dello Stato. E tu, ministra degli interni, alzati dal tuo seggiolone, vai al telefono, fai applicare i decreti. Vai ad applicare le leggi e ferma i balconi, la Morgese! Svegliati dal tuo sonno eterno! Sarai giudicata la Morgese! Non ti illudere! Sai quale sarà la tua fine? Lo sai quale sarà la Morgese? Ovunque dobbiamo rispettare le regole. Voi le rispettate lì al campo della Magliana? No. Guarda, fratelli, ho sfornato tutto, fratelli. Ho preso il muro, fratelli. Te dico, fermate, fratelli. Ho preso il muro, fratelli. Era una bella da Dio, Mazda. Sì, quella. Quanti soldi deve avere? Ma quelli che sono solo! Perché la puttana è andata a fanculo! No, Emilio, scusa, ma perché sei arrivato con loro? Siete rotti coglioni! Siete delle merde! Via! Da questo canale! Crux, confermo che Catanzaro fa cagare. Penso che con Foggia e Ancona anche si battano il primato per le città più brutte d'Italia. Giuseppe, ma al matrimonio di Parenzo, oltre al brasiliano e al padre del brasiliano, a questo punto puoi portare anche Carmela, che comunque è una dei parioli. Una persona altolocata che si troverebbe sicuramente bene in quel contesto. Dai, dai, anche Carmela. È meraviglioso, meraviglioso. Cosa? Incredibile. Scuoti la testa alle 18:38. Scuoti la testa alle 18:38, amico mio. Sei incredibile. Carmela, dove sei? Pazzesco. Non ti preoccupare, pazzesco. Sarai reclutata in questa grande kermesse che sarà il matrimonio di Parenzo, perché prima o poi ci sarà. Non c'è nessun matrimonio. Hai promesso a giugno, hai sospeso per il coronavirus. Quando tutto sparirà, ottobre, novembre, ci sarà. A chi ascolta, cosa interessa? Molto questo? Interessante. Ma molto soprattutto interessante. La cosa più importante che io ti volevo chiedere prima che tu faccia i saluti iniziali, Daviale Manterosa, buonasera, eccetera. Se tu, sinceramente, se tu fossi l'editore di questa radio, se tu fossi l'editore di questa radio, manderesti in onda questa trasmissione? Sì, sincero. Io posso dirti? No. Io se fossi l'editore di questa radio, Parenzo in C, o il Parenzo in C, sì, esatto, Parenzo in C, non sceglieresti questa trasmissione da mandare in onda? Non la manderei, ma non la manderei perché è volgare, fa casino, diseducativa, nazisti che parlano, e sporconerie, parolacce, piercing, fissing, e pompi, insomma, io personalmente non la manderei in onda. Ma capisco che sto dicendo una cosa contro il mio interesse, però tu dici fosse l'editore Parenzo in C, fossi l'editore come Carlo De Benedetti, esatto, come l'ingegnere, bravissimo. Parenzo, lasciamo stare l'ingegnere, grazie Parenzo di questa cosa, possiamo cominciare, grazie. Monterosa 91 20 149 Milano, eccoci qui, vivi e Badget. Come avete sentito, purtroppo in diretta da Roma negli ultimi giorni, prima dell'inizio del grande lirio, su un altro canale, David Parenzo. Buonasera, cari amici, buonasera. Ragazzi, voglio subito iniziare con la Calabria, una cosa che ti renderà felice, caro Parenzo. La Calabria, gli amici calabresi. Mi hanno appena scritto una persona di cui non posso fare il nome, ma insomma una persona quale sono particolarmente affezionato. Dice, ma c'è ancora il divino? Mi ha scritto, ma c'è ancora il divino? Il divino, come avete sentito prima, che ce l'aveva con la Lamorgese. La persona quale sono particolarmente affezionato. Allora ragazzi, la Calabria, non dovete rompere i coglioni, amici calabresi. Adesso si è messo di mezzo pure il Codacons, che chiede sospendiamo la trasmissione. Senti Parenzo, ottimo. Il Codacons, dove si firma? Il Codacons, vuole chiudere la nostra trasmissione? Sì, il Codacons. Io mi costituisco parte civile, hanno ragione. Sei dove un si coglione. Firma? Il Codacons della Calabria. Il Codacons della Calabria. C'è il Codacons in Calabria? Sì, esiste il Codacons. Questo però. Il Codacons Calabria. Dice, che cazzo fa il Codacons in Calabria? Il Codacons Calabria, no, però. Che si occupa di questo? Il Codacons Calabria. Codacons Calabria. Un signore, Francesco Di Lieto, che chiede la sospensione della trasmissione. Perché siamo stati razzisti? Sono stato razzista. Cita solo te, spero. No, ma senti. Ha chiesto un deciso e immediato intervento dell'autorità le garanzie porre un freno ad una forma di razzismo strisciante porre rimedio a un comportamento che riteniamo deplorevole. Tutto questo perché, signori? Perché ieri ho lanciato un po' un tormentone. Ma sei mai stato a Catanzaro? Sei mai stato a Catanzaro? Libertà, posso ritenere Catanzaro una bruttura architettonica? Insiste. Ci sarà un bel mal la posso? È legittimo ritenerla tra le 3, 4, 5, 6 peggiori città capoluogo di provincia in Italia? Sarò libero c'è di ritenerlo. C'è il mare meraviglioso, c'è un mare meraviglioso. Allora, c'è Tropea. C'è ma che Tropea c'entra in Calabria, Tropea con Catanzaro? Ho parlato di Catanzaro io. Ragazzi, mettiamo le cose in chiaro. Allora, sulla questione di EasyJet, eccetera. Ho detto che lo spot è positivo per la Calabria. Non è che ho detto non andate in Calabria. Ho detto che alla fine lo spot era positivo. Hanno detto della criminalità. Vero però, amico mio. Vero. Non potete negare. Vero. C'è una nomea che riguarda la Calabria. Magari non ha influito. Non lo so, però è vero. I terremoti è falso, perché mi segnalano che l'ultimo terremoto è stato, non so, all'inizio del Novecento. L'ultimo terremoto grave. E la questione delle città. Non c'è una città che ha la stessa capacità di attrazione di Venezia, di Firenze, di Roma. Non c'è un cazzo da fare. E da lì il tormentone. Sei mai stato a Catanzaro? Ma qual è il problema di questi signori del Codacons? Che cazzo vogliono da me questi signori del Codacons? Dai, su, non rompete i coglioni, dai. Dai, forza. Giordano col gong, vai, Giordano col gong, vai. Fatemi partire Giordano col gong, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, Giordano col gong, grandissimo. Donato, stasera li suoniamo tutti. Stasera è una puntata pazzesca. Pazzesca, c'è Meloni, Salvini. Esclusive, inchieste. Inchieste. Siamo entrati, per esempio, dentro i segreti di una famiglia. Gli italiani hanno problemi di soldi, per loro no. Loro sono pieni di soldi, soldi, soldi, soldi. Non sanno più dove metterli. Chi sono? I Casa Monica. I Casa Monica, grande problema. I Casa Monica. Beh, però effettivamente i Casa Monica, ragazzi, cioè, spesso sono criminali. Spesso non tutti i Casa Monica, ma molti Casa Monica, come direbbe qualcuno, no? Come direbbe qualcuno. Vai. Senti, poi parleremo di immigrazione. La foto del carabiniere di Avezzano pestato da un immigrato, peraltro immigrato col permesso di immigrato con reddito di cittadinanza, non per reddito di cittadinanza. Ovviamente la foto dietro del carabiniere picchiato, no? Del carabiniere picchiato dal migrante, caro Parenzo, no? Signor Giordano, ma perché è incredibile? Ognuno fa la trasmissione che vuole, no? Ma sì, ma ci mancherebbe altro. Posso dire semplicemente che è incredibile. Posso dire che è incredibile, dai, no, non si può dire, su, vabbè, dai, dai, su, dai. Sì. ancora tu, De Luca, perché tu sei a Bordereau, no, lì dentro, no, sei a Bordereau, io ho la mia autonomia, la sai, lascio, sì, ma sei a Bordereau, ho lasciato dire a Roma sei, l'altro giorno, la mano qua sopra a Bordereau, guardate la mano, allora, a Bordereau, e che c'entra, mi posso permettere di dire quello che voglio, ma posso dire quello che voglio, a Bordereau posso dire, ma che cazzo vuol dire, pure tu sei a Bordereau della 7, che cazzo vuol dire, no, io sono un collaboratore fisso alla 7, ma tu sei a Bordereau, e me che cazzo vuol dire, a Bordereau, ma l'altro giorno un Roma ha detto che considera Goebbels, ma non lo so cosa vuol dire, però tu mettiti nei panni, una specie di Goebbels, ho capito, ma tu mettiti nei panni di chi ascolta, se sente me che urlo che tu sei a Bordereau, si farà un'idea sbagliata, a Bordereau, cioè la gente non capisce se pagato. Abbiamo buttato tutto in vacca, è una tecnica classica, normale, no? Di... Insomma, l'avremo per tutti anche per stasera, tutti, documenti, sì, allora, inchieste, servizi, poi tutto. I nostri ospiti, Vittorio Feltri, il professor Massimo, ecco, Gallo, Matteo Renzi, Nicola Porro, Vazzanicchi, insomma di tutto, e voi, come sempre, aspettatevi di tutto a tra pochissimo. A un certo punto Lazzanicchi fa l'elogio di Giordano. Tu, Mario, sei una voce forte, dici la verità, sei bravo. Comunque, ragazzi, uno spompinamento così è incredibile, caro Parenzo. Noi non lo facciamo, noi ci denigriamo. Cioè, noi qui succede esattamente il contrario di quello che succede a Giordano. Il conduttore dice: sarà una puntata schifosa, con cose che mi fanno schifo, ascoltatori del cazzo che chiamano. Esattamente in cosa. No, non sarà una puntata fantastica, sarà molto volgare, come al solito, sopra le righe. Secondo me, inascoltabile da chiudere. Questo è il promo vero. Il contrario è Giordano, Giordano che dice: senti con Lazzanicchi, senti. Sì. Questa nostra trasmissione si è spesso parlato delle mie quelle cose che faccio in studio, tipo quella che ho fatto stasera, no? Col gol, che poi dopo bene. Riprendono sui Mario, tu sei una voce molto importante, non è che ti voglio sviolinare. No. Io ti faccio i complimenti e fai bene, continua così, perché continua così, sei una voce forte. No, ed è giusto raccontare la verità alla gente. La voce forte è la prima volta che me la dicono, ti ringrazio. È grandioso, perché è veramente autoironico. Anche là, perché non dici Lazzanicchi a Bordereau? Perché non dici Lazzanicchi a Bordereau? Sicuramente. Perché non dici a Bordereau che fa la sviolinata al signor Giordano? Sicuramente. Perché non lo dici? E tu dove sei? Pagato da Rete 4? Fermi. Pagato tu. Da Rete 4? Sì, anche. Eccetera. Ma posso dire il cazzo che mi pare? Non c'ho bisogno di sviolinare però nessuno. Pagato da Rete 4. Non ho bisogno di sviolinare a nessuno. A Bordereau, però a Bordereau. No, andate a vedere cosa fa. A Bordereau. Ma andate a vedere che. Andate a vedere. Lei mi ha ridotto sul lastrico, Menagramo. Se ne vada, sparisca! Menagramo, prima che la licenzi, Menagramo d'un Menagramo. Perché lo store GBM? Perché così siamo operativi 24 ore su 24, momenti di crisi compresi. Per il supporto dei partner, i servizi, il prezzo, imbattibile. E perché fino al 30 giugno c'è l'offerta di locazione, con primo canone dopo 3 mesi. Hai un'infinità di motivi per scegliere IBM Flash System. Scopri di più su ibm.com/it/PMI. Messaggio pubblicitario. Offerte di locazione di 3 più 33 mesi soggette ad approvazione di IBM Italia Servizi Finanziari. Fogli informativi dai rivenditori. La Zanzara. Zanzarosi, una giornata difficile, Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Sono Mirko dalla provincia di Milano e anch'io, come tutti i metalmeccanici, al lavoro devo cagare nelle turche e poi piscio per lavare via le sgommate. I love my radio. Sono Daniele da Rimini e anch'io mi faccio infilare le dita nel culo della mia compagna. I love my radio. Ciao, sono Matteo da Trento e non cambio le lenzuola da marzo. I love my radio. Siete quattro froci! Sviluppo e sostenibilità ambientale, visto che questo ponte con i pannelli di metano sostanzialmente si autoalimenterà. Quindi ci vediamo da agosto. Macchina. I pannelli di metano, amico mio. Dico solo questo, i pannelli di metano. No, a me lo dici, ma abbi il coraggio di farlo sentire. Beh, l'ho fatto sentire, pannelli infatti. Di metano. Ho fatto abbi sentire. Coraggio, perché non hai... Io ho capito che sei ormai di matrice sovranista e hai stretto un accordo strettissimo. Ma non esiste più sto sovranismo, queste cose, dai. Ma fai tu. Sentire cosa ha detto sul ponte di Genova Matteo Salvini. Ma l'ho fallo sentire. Abbiamo gli avvocati di A Buon Diritto che sono pronti e ad aiutarti in ogni momento. Fallo sentire, per piacere, cosa ragazzi, ha detto il tuo leader. Comunque, Menagramo di un Menagramo. Menagramo, che non sei altro. Sì. Menagramo di un Menagramo. Lombardia, restano 692 ricoverati, certo, 200 in meno rispetto a ieri. Solo 88 nuovi, se voi vogliamo credere a queste cose, 88 nuovi contagiati. Bisogna vedere cosa significa contagiati, discorso lungo. 7 decessi. Non rompere i coglioni. Basta, menagramo maledetto ogni volta. Menagramo di un menagramo. Menagramo di un menagramo. Mamma mia. Ragazzi, ieri all'Iene ho visto un Algero eccezionale. Quello di Fratelli, ho fatto Pater Botto, eccetera, eccetera. È un criminale questo Algero, no? Sì, un criminale. Adesso non esageriamo. No, un criminale. Come lo definisci? Ma non lo so, esageriamo. Come lo definisci? Un navigatore del web. Uno che fa. Ma che navigatore? Un banditello. Ma si può dire almeno banditello. Ma sì, ma no. Ma tu dovresti essere per il recupero delle persone che hanno fatto degli errori. Cioè, invece. Non presentarlo così facilmente, ma non presentarlo come fosse Gian Antonio Stella, ma non sta dicendo così, nulla, non presentarlo come fosse Galli della Loggia, no, no, è un criminale, no, vabbè, okay. Scusami, senti. Qui dice avevo pure i lobby, poi io mi sono tagliato i lobby, corbissuli, cioè da solo. Ah, cioè tu non c'hai il lobo, è vero? E io mi sono tagliato, io ho vedi il lobo mio, c'è cioè, lo sott'olio, che schifo. Questo è il lobo mio, col pure il dilatatore attaccato, è il lobo sinistro perché il destro l'ho buttato. Cioè questo si è tagliato i lobi degli orecchi, cioè, si è, e uno dei lobi degli orecchi se l'è messo sott'olio. Impressionante. Signor Algero, ma incredibile, Algero. Ma incredibile. Amico mio. E tu non dici niente, per te è normale? Ah, è normale, è normale. È normale, è normale. Appunto. Mazza, che c'avevi? È una milza quella. Te lo so di. C'avevo un lobo, ti dico fermo a te. C'ho pure l'arma con tutto insanguinato, te lo tira fuori? Sì. Eccolo qua. Ma io non ci credo. Questo è l'asciugamanino, tutto è sangue. E questo è l'arma. Tu ti sei messo comodo, comodo. Comodo, comodo. Il giorno del mio compleanno. Io intanto ti ho acquarelato e chiedo i danni. E chi? Chiedo rilevantissimi danni. Chi? Perché lo hai fatto nella televisione La 7, che si presta da tempo a questi giochi. E ho querelato anche il direttore di La 7. Ma dovrete rispondere tutte e due. Ma chi dice? E chiederò sul piano civile tanto denaro. Ma cosa per cosa? Allora, dice Pappalardo che vuole querelare Calenda e il direttore della 7 perché Calenda gli ha dato del cretino. E cosa c'è il direttore della 7? Che cazzo risponde? E cosa c'è tra non lo ma so, chi è dico questo? Io non lo so. È Pappalardo. Mamma mia, ragazzi. Un certo Calenda, sì, un certo ha detto Calenda in televisione sulla 7 la presenza di una presentatrice allora abbastanza sbadata. Che io sono un cretino. Beh, vabbè, questi attacchi questo personali già fanno che capire che personale ormai è giunta la politica in Italia. Eccola, tolto la detto. Vabbè. Il generale Pappalardo. Cioè il generale Pappalardo che poi. Ma dai ragazzi, ma come si fa? Mamma mia. Dai ragazzi, Andrea dalla provincia di Reggio Emilia, sì. Ma continua ancora la guerra De Luca Salvini, eh? Ogni giorno un capitolo. De Luca Salvini dovrebbe tacere, ha il fattore cifro. Ma sentiamo qualcosa di De Luca. Un continuo, come si direbbe in gergo contemporaneo, dissing. Molti utilizzano dissing. La prima volta che me l'hanno detto, ma che cazzo è dissing? Volete parlare come magnate, cazzo? C'è un dissing in corso. Vabbè, dissing, diciamo dissing. Lei ha detto a Salvini che è omosessuale, fondamentalmente. Ma chi lo ha detto? Ma perché dite queste stupidaggini? La schiena usurato. Usurato significa semplicemente che in politica c'è un fattore che si chiama fattore C, che è il fattore della fortuna. Usurato significa che nel giro di un anno hai perduto il 10% dei voti dalle elezioni europee ad oggi. Tutte queste interpretazioni mitico-allegoriche appartiene a chi le fa, non a me. Però c'ha ragione in questo caso, che cazzo di domanda è? Cioè, lei ha parlato di Salvini come di un omosessuale semplicemente perché ha detto che ha il sedere usurato. Ma che domande sono? Ma nessuno ha mai pensato ad un'allusione all'omosessualità. Dai, Andrea da Reggio Emilia, dai Andrea. Ciao Crucio, ciao Parenzo. Dimmi, ciao dimmi, caro. Dimmi. Andrea da Reggio Emilia però con origini calabresi. Ricominci pure no, tu allora, sulla Calabria, non rompetemi i coglioni sulla Calabria, Crucio, ragazzi. Per una volta e mi sto preoccupando perché ultimamente troppe volte. Ma dai, il Codacons, ma che roba è il Codacons? Su, Codacons Calabria, dai. Si vede che non ma ha poi non, esiste, non sapevo nemmeno che esistesse un Codacons sezione Calabria, ma che roba è? Cioè, il Codacons mi sono meravigliato, però voglio dirti una cosa. è inevitabile, cioè l'andrangheta c'è, ma quello che ti voglio dire è che sì, se noi ma ho capito, ma lascia perdere, EasyJet ha fatto un favore alla Calabria, no, non l'avete ancora capito, no, ha fatto un favore, e poi questa è giusto che non ci sono città simbolo per quello che riguarda l'attrazione turistica, ma non è una colpa della Calabria, non c'è Venezia, non c'è Firenze, non mi pare che ci sia la massa di americani che prenotano per andare, per carità, vanno a Reggio Calabria a vedere, stanno due giorni e poi vanno via, ma non c'è la massa di gente, no, ai confini del, non devono fermare l'avanzata degli americani che vogliono andare in vacanza in Calabria. Va benissimo, però è stupendo, è meraviglioso, ci sono tante cose, però dai. Parte prevenuto perché non ti voglio nemmeno attaccare. Io ti voglio dire che se avessimo noi calabrese, mi metto e mi metto in mezzo, avendo origini calabrese, avessimo usato la stessa rabbia, no? Che abbiamo utilizzato contro EasyJet, contro l'andrangheta, questo EasyJet non avrebbe nemmeno questo avuto giusto, motivo. Questo è giusto, bravo Andrea, bravo Andrea, questo è giusto. No, ma ragazzi, ma non c'è stato un attacco concentrico contro EasyJet, mentre sull'andrangheta un po', insomma, è giusto. Ma non c'entra niente questo. No, aspetta, noi ci limitiamo. Lamentiamo dell'immigrato, ma l'andrangheta non per ma noi non detto? È. Ma chi è detto? No, ci sono dei calabresi che si sono battuti. Questo Mimmo, provincia di Bari. Fermo, Mimmo, provincia di Bari. Dimmi chi è Mimmo. Mimmo, Mimmo, pronto? Chi sei, Mimmo? Mimmo Mastello, l'autore del libro della Scalda Camionisti. Beh, amico mio. Beh, cos'è, amico, scusi, questo? Beh, amico libro, Mimmo la stella, è il libro, autore del libro La Scalda Camionisti. A chi se ne frega, ma chi lo pubblica sta porcheria? Che roba è? Che roba è? Vai avuto, ma che sei ricchione che non lo veggi. Ma che cosa vuol dire? Ma adesso Cruciani pubblica con la nave di Teseo, io con la Marsilio. Vabbè, ma non ho mai sentito una porcheria simile. Che roba come? È questa? Ma scusa, mi ha pubblicato un libro che è praticamente molto breve, devo dire, che è la biografia, il racconto della Scalda Camionisti, una prostituta umbra di Spoleto, sovente ospite di questa disgraziata trasmissione. Ma chi se ne frega? Chi se ne frega? Ma come? Diglielo un po', Mimmo, diglielo un po'. Come dai, chi su. Se ne frega? Ma che non ti interessi di donne? Di donne. Ma sì. No, ma cosa vuol dire? Ma che c'entra questo con un racconto di come una prostituta? Come lo consideri, Mimmo? Scusa, come lo consideri, Mimmo? Ma un coglione. Ma come si perché un coglione? Ma come? Fermi tutti. Il segnale orario vi è offerto da Blumatica, il software scelto dalle aziende per la sicurezza dei lavoratori. Blumatica.it. Ho scoperto che il tempo libero è la più grande ricchezza. Scarica l'app Mobile Banking di Unicredit, così avrai più tempo per te. Scopri come poter vedere dall'app Unicredit i tuoi conti correnti con online banking attivo, anche di altre banche abilitate. È comodo e senza costi. Condizioni, modalità di adesione e banche abilitate su unicredit.it. Pubblicità, servizio dedicato agli aderenti a banca multicanale. Fogli informativi su unicredit.it e in filiale. La Zanzara. Però ragazzi, questo che dice fanculo l'Italia, fanculo la polizia, ammazzo i carabinieri, mi scopo Giusy Ferreri. Parla di violenza, parla di stupri, parla di pompini, parla di ingoio, parla di troie. Parla di violenza, parla di stupri, parla di pompini, parla di ingoio, parla di troie. Amico mio! Parla di troie. Fanculo l'Italia, fanculo la polizia, ammazzo i carabinieri, mi scopo Giusy Ferreri. Fanculo l'Italia, fanculo la polizia, ammazzo i carabinieri, mi scopo Giusy Ferreri. Amico mio! Mi scopo Giusy Ferreri. No, è possibilissimo. Ciao, sono Alberto da Bologna e anch'io annuso le mutande sporche prima di metterne a lavare. I love my radio. Ciao, sono Riccardo e sogno di vedere Parenzo farsi fare un pompino con le caramelle da Carmela, la puttana dei parioli. I love my radio. Ragazzi, se a settembre non ripartite, io ve lo dico alla Caffezzone. Numero uno, vergogna! Vergogna se non ripartite a settembre. Numero due, la Confindustria. Perché non prende una posizione chiara da dire agli italiani sul futuro di questa trasmissione? Numero tre, terzo, se dovesse succedere che voi non ripartite, noi non lo permetteremo. Noi faremo le barricate! Faremo le barricate! Capezzone. Sì, va. Allora, nell'ordine, numero uno, secondo, terzo. Capezzone, Capezzone. Quello che io trovo sorprendente è invece la narrazione che si costruisce intorno a questo. Cioè la vera, il vero problema di questa nostra faccenda non è la presenza di un virus che ha fatto delle polmonite interstiziali, cosa che è avvenuta anche nel passato della storia dell'umanità, ma il colossale allarme sociale, economico che ha distrutto l'economia italiana. No, io non mi lascio, non accetto questo ragionamento delle bare, perché basta, bisogna vedere i numeri, non le bare, perché le bare mandate in onda dal TG1 in prima serata sono uno schifo, secondo me. È un'immagine che avrei preferito non fosse mai stata mandata in onda. Però esisteva nella realtà, era la descrizione della realtà. Fa parte la mandare in onda. Ma dovevamo censurarla. E cattive, non andavano mandate in onda. Noi. No, esatto. Signor Meluzzi, esatto. No. Allora, le concetto, immagini delle bare non andavano mandate in onda. Il concetto è molto semplice: ogni volta che ascoltate Meluzzi, volta che viene mandato in onda Meluzzi, deve andare a contest subito dopo per capire chi è, anche questo, subito dopo. Noi. Esatto. Alessandro I. Perfetto. Al secolo Alessandro Meluzzi, primate della Chiesa Ortodossa Italiana autocefala. Pausa. Antico orientale. Perfetto. Esattamente così. Ogni volta che lo invitate in una trasmissione, io non lo inviterò mai, ma ogni volta che voi direte 4, dico a te Cruciani, voi direte 4 lo invitate, dovreste mandarlo in onda e poi subito dopo dire: ah, lei è Meluzzi, quello che ha appena parlato, vero? Facciamo sentire questo. Così deve essere. Io se non sento Algero vado ai matti. Se non sento Algero, è diventata la tua nuova passione. Sono matto di Algero. D'altra parte, qui è venuto fuori per caso. Prima nel web e poi qui, poi gli altri sono accodati. Le Iene, altre trasmissioni. Sei contento di aver creato? Tu sei una specie ogni di. Ogni tanto sono contento. Sai il laboratorio dove nasce Frankenstein? È presente. Ma tu cos'hai? Un contratto con la Marvel per creare dei mostri? Cosa sei? Con la Disney? Hai fatto una nuova marchetta pure con la Marvel nel creare dei mostri? L'unico che è stato pagato dalla Disney qui, multinazionale, quello sei tu. L'unico sei tu che è stato pagato dalla Disney. Io no. Multinazionale e magari con qualche diramazione di grande famiglia. Ma come ti permetti? Di chi è la Disney? Ma che ne so io? Ebraico massonico. Ma quale se Disney era pure. Ma che dici? La multinazionale americana straordinaria. La Disney in mano agli ebrei. Ma non è vero. Puttanata, non è vero. Facendo quel video, che volevi dimostrare? Volevo semplicemente far vedere come sei guida, prendendo le curve a una piotta e 20, facendo squillare le gomme. Squillare le gomme? Che strillano le gomme quando. Fast and Furious. Certo. Ma il tuo scopo era quello di diventare famoso? Ma in realtà penso di essermelo sempre meritato di diventare famoso. Io penso che la mia faccia deve stare ovunque. Vorrei aiutare il prossimo. Vedi quanto si stanno a perdere i giovani d'oggi nella droga, che vogliono fare i malavitosi. Tu sei contro? Io sono contro. Lo pippo io. Questa qua era cocaina vera? Sì. Ma io tuttora faccio musica, io c'ho lo studio mio a casa. Io ti dico la verità, a me non mi piace la musica che fanno questi qua. Ma sono tutti figli di papà. E poi vengono a parlare che spacciano, fanno le cose. Ma che fanno? Ma fratelli. Cioè quindi i trapper di adesso tu che ne pensi? Che ne pensi? Mi fanno un bel buchino. Signor Algero, intanto Fede sta tornando a Milano a casa, c'è tutta una cosa complessa, la giustizia italiana, il GIP di Napoli dice che è competente Milano, una roba incredibile, è competente Milano, dunque lui sta tornando, tornerà a Milano e Milano dovrà decidere se c'è stata evasione o non c'è stata evasione, il signor Fede, signor Fede, vai, Salvatore da Catanzaro, vai, avanti tu. Salvatore. Ciao Peppe. Dimmi Salvatore, dimmi. No, aspetta, una cortesia... non sento, dimmi Salvatore, guarda. Dimmi. Allora, una cortesia per quello che per il video che ho visto ieri di quello che hai detto tu su Catanzaro. Sì. Allora, se mi concedi soltanto un minuto. Sì. Allora, passo agli svizzeri di EasyJet che hanno 4 aerei, io ne ho presi 2 una volta. Sono inglesi di solito, No, sono svizzeri. Svizzera, la proprietà di che cosa? Mi sembra l'inglese. Li fanno in Svizzera. Vabbè, hanno avuto dall'1-1 ad oggi 470 scosse di terremoto. Ma dove? E hanno gli svizzeri e hanno i controcorrenti EasyJet. Che cosa noi c'entra? Siamo mafiosi e terremotati, no? Sì, va, ma no, questo è terremotato, è una cazzata. Che ci sia, come allora, dire, che l'Andrangheta allora, sia nata in un posto che è confinante con la Sicilia allora, per quel piccolo allora, braccio di mare con altre regioni del sud Italia, non mi pare che si possa negare. L'Andrangheta si sposta al nord perché ma certo, non c'è dubbio, ma dove è nata? Ma dove cazzo è nata? Ma lì poi si parlava di Catania. Una cosa, Catanzaro ha partorito gente. Che c'entra? Come Mimma Rotella. Ma certo, ma cosa c'entra? Non sai chi cazzo sia. Ma certo che lo so, lo sa, ma che uno può essere nato anche in una città brutta. Ricordati della civiltà della Calabria. Non cercare di coprire la mia voce perché è la coda di paglia. Bravissimo. A Catanzaro abbiamo Salvatore, ma uno può essere nato, ma che c'entra il mare con la città? Non saremo Roma, non saremo Firenze, l'Andrangheta è lassù. E lassù, non Salvatore, ce l'ho a Catanzaro. Salvatore, a Catanzaro, io ho detto, hai mai visto, sei mai stato a Catanzaro? Sei mai stato? Che mi hanno rotto i coglioni. La mia città. Ma non ho offeso nessuna città. Non fate città. I napoletani che si offendono per tutto. No, i napoletani dai. No. Il problema tuo lo sai che noi non ci abbiamo i due De Luca a livello politico che ci difendono e difendono la propria città. Parlo di ma Catena. Smettetela del col codo, con se che rompe i coglioni. Dai, basta. Se no, vi prenderemmo a calci in culo. E ti premetto un'altra cosa che abbiamo salvato nel periodo di Covid. Questa è la dignità due, del due sud, gente esatto. di Bergamo che sono venute a Catanzaro certo, all'ospedale civile certo. Li abbiamo salvati i nostri. Ma cosa c'entra perché questo con quello che ho detto sulle città che attraggono i turisti? Ma chi cazzo viene a Catanzaro se uno deve scegliere se andare a Roma o a Catanzaro, a Venezia cosa. O Firenze? Va a Firenze, a Venezia, non a Catanzaro, mi, non rompere i coglioni. Mi fai chiudere con una cosa. Poi dopodiché vai al mare. Catanzaro, viva il sud, fanculo tu e quel mentecatto di Feltri, quell'altro rimbambito e giullare molto che bene. Lo portate in trasmissione Feltri? Soltanto perché applausi perché lui ha parlato male del sud, ma applausi, chi c'è? Ma applausi, quello è rimbambito, ma cosa c'entra? Per piacere, applausi. Fatti un bene. Po' dire da Parenzo che un po' di cultura. Ma scusami Salvatore, ma cosa c'entra? Amico caro, grazie. Uno dei migliori teatri d'Italia, bellissimo. Coglioni, posso un esempio? Posso ricordarti, cretino? Posso ricordarti che a Catanzaro facevano era la fabbrica degli avvocati d'Italia, Catanzaro, la fabbrica degli avvocati d'Italia. Taroccavano gli esami. Vergognati. Abbiamo gente come Mimmo Rotella. Mimmo Rotella. Mimmo Rotella. Ricordati Mimmo Rotella. Bravissimo. Bravissimo. Ragazzi, certo. Pure a Caltanissetta, che è uno dei posti più brutti di Italia. Ambito di libero. Hai capito? Ma pure Caltanissetta, che diciamoci la verità, Caltanissetta non è una bellezza. Caltanissetta, eppure sarà nato qualcuno. No, nel no. periodo del Covid siete ma tu ti rendi conto a Catanzaro nasce la pop art internazionale aperte, ma vergogna certo la certo. Qui abbiamo il la cavallo pop art. Di battaglia di Catanzaro ma di Rotella il grande, la grande avete, figura legata al movimento del nuovo giù tutti e due avete rotto i coglioni adesso state facendo no, il monologo ma vai a fare in culo vai fermo tutto fermo tutto ma vai a cagare te Catanzaro. Tu, ancora insisti, ancora insisti, ancora insisti. Mi piace quando dice a fanculo tu e tutta la trasmissione. Eravate la fabbrica degli avvocati degli avvocati falsi e tarocchi. Eravate la fabbrica dei falsi avvocati. E non dicevate un cazzo, buffone. E là da te dove nascondete, dove gli imprenditori nascondono i soldi. Fermola, fermola. I controcorrenti sono crippitati. Fermola, buffone, fermola. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presenta La Zanzara. Oggi torna così, regà, se vi siete salvati alla diretta siete miliardari, fratellino! Fratellino, prendete il muro, fratelli! Un'avvertenza. Ho un carattere ferroso, ho un carattere dinamico, ho un carattere di bende. A me non mi servono i consigli. È meraviglioso, meraviglioso. Allora Cruciani, te non vuoi fare il vaccino, eh? Allora fai una bella dichiarazione in cui scrivi che se ti ammali di Covid nessuno deve venire a prenderti, a salvarti. Te la vedi da solo. che ti ammali nessuno, non chiamare l'ambulanza, non ti fare intubare, te non hai voluto fare il vaccino e non ti fai salvare da nessuno. Ciao, io la penso come Cruciani, ma vorrei invitarlo a venire a Scilla quest'estate a mangiare su una piattaforma sul mare nel borgo di Chianalea di Scilla, in provincia di Reggio Calabria, e con vista sullo stretto. Siamo veramente all'incredibile, ormai non si può dire più un cazzo. Mentre in America vogliono abbattere le statue anche che raffigurano Gesù Cristo per bianco, una cosa incredibile, e dappertutto si continuano a dire delle cazzate pazzesche, a voler abbattere qualsiasi cosa possa ricordare anche lontanamente il razzismo o qualche tipo di, no, di diritto che non c'era. In Italia uno, come, che è psicologo, che cos'è Morelli? Lo psichiatra Morelli, sai cosa ha detto in una radio? Poi andiamo magari a ripescare l'audio se possiamo, oggi o domani, eccetera. Una donna deve preoccuparsi se gli uomini non le mettono gli occhi addosso. Ora tu dimmi, Parenzo, se una frase del genere del signor Morelli debba essere considerata una frase sessista. Cioè, non è che si parlava di stupro, si partiva da un aforisma, da una frase di François, è una frase stupida, di François Sagan. Non mi ricordo qual era questa frase. Sagan, un vestito, intanto, no, ma tu lo saprò meglio Sagan. Un vestito non ha senso a meno che ispiri gli uomini a volertelo togliere di dosso. È una stupidaggine. Questa è la, ma è una stupidaggine cosa? Ma sarà anche una stupidaggine, ma non è che uno può essere messo in croce e considerato sessista se dici una donna deve preoccuparsi in che contesto, se gli uomini se lo non le mettono gli occhi addosso. Dai, quando su. È un letterario, se lo dice uno grande scrittore, se lo scrivi in un bellissimo libro. No, ha ragione Morelli. Poi lascia perdere, non è che tutte le donne, alcune donne non si preoccupano e se ne fottono, però uno può anche dire senza essere accusato di sessismo che se una, la frase esatta è questa: se una donna esce di casa e gli uomini non le mettono gli occhi addosso deve preoccuparsi. Ma il contesto perché è fondamentale, vuol dire che il suo femminile non è in primo piano. Ma perché tu non capisci che il contesto, aspetta, è determinante? Puoi fare l'avvocato o il magistrato e ottenere tutto il successo che vuoi, ma il femminile in una donna è la base su cui avviene il processo. Il femminile è il luogo che suscita il desiderio. Le donne lo sanno bene, perché se la donna non si sente a suo agio con un vestito, torna in casa a cambiarselo. La donna è la regina della forma, la donna suscita il desiderio, guai se non fosse così. Ora dovete dirmi che cazzo c'è di sessista in queste parole, cazzo! Non è che ha detto che le racchie devono andarsi a nascondere, ha detto semplicemente la verità. Perché no, una donna, ma scusa, sceglie una cavigliera, un anello, sceglie di truccarsi per il farsi tutto dipende vedere, in quale contesto viene detto, viene se viene scritto, dai, in un bel libro. Ma no, robe, è fondamentale, dai, su, è fondamentale. Dai, su, ma che cosa tu trovi veramente? No, fai la figura, ma scusa, del mi lascia perdere porco, il contesto, dello ma è, schifo. Secondo te Morelli ha fatto la figura del vecchio porco con questa frase qua? Assolutamente. Cioè, la frase una donna deve preoccuparsi se gli uomini non le mettono gli occhi addosso è una frase offensiva, secondo te? Il contesto è determinante. Ah, ma l'hai già detto, non per i coglioni, dimmi allora quello che è pensi. Solo questo, dimmi quello è che solo pensi questo. Di questa frase, senza girarci fuori. Intorno. No, no, è, senza è una, girarci intorno. È, che frase è una frase è, che te? Può risultare anche volgare, no, risultare molestante, può risultare, certo. E perché? Perché ha detto semplicemente che le donne si vogliono mostrare spesso e se un uomo non le guarda è un problema. E poi attribuire alla donna soltanto quella funzione lì, è una sciocchezza, è una grande sciocchezza. Ma non è questo. Comunque, se vuoi passare, senti, di Mozart che toccava il culo alle cameriere ce n'era uno solo. Se tu vuoi fare quella fine là, se tu pensi di essere il Mozart della radio, devi mettere però in conto che quando tocchi il culo a una cameriera ti arriva una sberla da denuncia per molestie. Allora Mozart era Mozart. Ma io non ho mai toccato il culo a nessuno senza che le persone lo volessero. Ed era Mozart. Io non ho mai toccato a nessuno il culo senza fare il vecchio porco. Ma io non l'ho mai fatto. Almeno diventa come Mozart. Almeno diventa come Mozart. Ma non lo farei mai, però non bisogna negare la realtà. C'è una frase di Sgarbi fenomenale su questa roba qua delle donne. Dopo te la farò sentire se la troviamo, eccetera. Intanto Fede, voglio sentire come sta Fede dopo questa notizia qua che torna a Milano, saranno i giudici di Milano a decidere, eccetera, eccetera. Oh. Gattone? Come? Gattone? Chi parla? Gattone? Oh, cavolo, gli stronzi con sconosciuto fanno le battute medie. Gattone? Avanti, parla. Gattone? Vai a prendere tua madre che se la stanno incurando in sette, hai capito? Vergognati, tu guadagni i soldi prendendo tua madre, figlio di gran patascia, no, hai capito? No, no, no. Sì, sì, sì. No, no, no. Pezzo di merda, sai che io so chi sei? Chi è? Non ti preoccupare, sai che so chi sei e dove abiti? Pensavi che stasera qualcuno ti viene a trovare, coglione di merda, lurido, pezzente. Siete proprio di quelli che fate schifo alla società. Ma tu lo sai, Davide, che oggi c'è stata un'intervista. Cazzo, non si può parlare. Intervista a Messaggero di Fede, in cui il povero Mario Aiello dice che la risposta al telefono gli ha detto: pezzo di merda, vaffanculo. Grande Aiello. Cioè, Aiello voleva chiamare il grande cronista del Messaggero, voleva chiamarlo per intervistarlo. Sì, no? E quello gli ha detto: pezzo di merda, pensando che fosse un molestatore. Una puttana. No, povero Aiello, un gigante Aiello. Murad, Reggio Calabria. E anche questo è colpa tua. No, ma... cioè, anche questo. Anche c'entra. Anche io fossi in Aiello, querelerei te? No, Fede. Gioacchino da Catania. Anzi, do un'idea al mitico Aiello. Anzi, querela Cruciani. Giuliano, perché colpa tua, provincia colpa di sua. Per e la gente che telefona, tutto Giuliano, qua. Giuliano, provincia. Ma perché le persone telefonano? Eccoci qua. Sì, dimmi. Non abbiamo funziona questo del computer. Apriamo una riflessione. Esatto, una riflessione. Ma in Italia, poveri noi, la gente perché cosa va in galera? Sì. Il povero Emilio Fede, che l'errore nella sua vita che ha fatto è stato mettere il cazzo dove non doveva. No, il cazzo veramente non è stato condannato. Dove perché doveva, me... grande, viva no, la figa, ha scopato Giuliano, tantissimo. Ma non hai capito, non lo so se ha scopato o non ha scopato. Lui dice di no, però in realtà non è stato condannato perché scopava, eh. Cioè è stato condannato no, per una certo, cosa per me assurda, certo, per favoreggiamento della prostituzione, reato che dovrebbe essere abolito. Reato che dovrebbe essere abolito, dimmi. Sono andati a prenderlo 89 anni al ristorante con la moglie, quando invece la ragazza che è stata a farsi le seghe con quelli che l'hanno rapita in Kenya per 4 mesi torna convertita e non le dicono un cazzo. Calma, stai mischiando le due cose, la ragazza convertita che è stata a farsi le seghe in Kenya, che c'entra quella là? Mica ha commesso reati, che cazzo dici? No, ma io voglio dire, ci cosa sono vuol dei dire reati che seri, paragone dei è? Reati non seri, ma quello Fede. Lì non c'è reato, lì non c'è reato. Oggi il quotidiano Libero, caro Parenzo, titola: arrestano Fede, non i camorristi. Grande titolo del quotidiano Libero. Esatto, c'è Murad o non c'è più Murad? Non c'è, c'è Murad, Giuliano, basta, hai capito? Murad, dimmi. Allora, buonasera. Innanzitutto volevo farti complimenti per lo scherzetto a Fede. No, non me ne frega, che scherzo, quello l'abbiamo chiamata, risposto così, non c'è scherzo. Vabbè, ma è uno scherzo, io lo vabbè, Murad, dimmi, non ce ne frega un cazzo dei complimenti. Allora, innanzitutto volevo parlare, cioè, in merito a quello che ha detto il ragazzo che ha chiamato da Reggio Emilia per quanto riguarda la Calabria e la Isi. Che vuoi? Sì, va bene, troppe che premesse, troppo allora, lungo, dai, non fa ascolto, dai, forza. Fammi parlare, porca puttana. Ma cazzo, sono passati 40 secondi. La televisione è fatta di frame, di immagini. Radio. Oh, la radio noiosa, no, solo le voci, vero. Sì, dai. Appunto, deve essere veloce. Se mi permetti finisco... Ma no, quello che devo ti dire, permetto chiudo. Un cazzo però Murad, dimmi quello okay, che devi dire, veloce. Se non sei stato in Calabria, come penso che non lo sia stato. Non è vero, sono stato in Calabria tante volte, tantissime volte, Diamante, Tropea, Catanzaro, a fare un'inchiesta sugli esami taroccati da avvocato. Ma perché tanto devi dire tempo così? Fa, perché è vero, era al centro, la centrale. Sì, ma non è che si qualifica per questo quel territorio. E chi l'ha detto? Ci sta parlando un marocchino. Ma guarda, Murad, tu puoi essere marocchino, tunisino, quello che ti pare. Intanto Murad, grazie per essere qui in Italia. Perché grazie per essere qui? Grazie per essere venuto qua. Voglio dire questo, grazie per essere venuto qua in Italia. Da quanto tempo sei in Italia, Murati? Da quanto tempo io? Sei? Da 35 anni, no? Grazie. Perché non sei venuto prima? Io veramente mi avrebbe fatto piacere perché non mi ci hanno portato perché i miei perché non hai sostituito prima. Spatalino, dici? Perché ad non esempio? Perché non hai sostituito il bambino da Mantova, dici? Preciso. Vabbè, ciao Murad, mi hai rotto i coglioni, ciao. La Zanzara. Vai a prendere tua madre che se la stanno incurando in sette, hai capito? Vergognati, tu guadagni i soldi prendendo tua madre. Daydream, just Non ha perso la verve il direttore, non ha perso la verve. No, la 89 verve. Anni rimane ancora anche fantasioso nell'insulto, no? Assolutamente. Ragazzi, ancora non ci posso credere che esista innanzitutto un Kodakons Calabria, ma poi ne parleremo. Sì, è interessante, effettivamente. Cioè, e che Kodakons poi voglia Calabria. La sospensione di questa trasmissione, semplicemente sì, perché ieri ho detto siete mai stati a Catanzaro? Cioè, non ho capito, non si può esprimere un giudizio sulla bellezza di Catanzaro? Sei mai stato a Catanzaro? Ma lo come funziona? Loro come funziona? Per chiedere la sospensione, cosa fanno esatto? No, mi interessa molto capirlo. Perché non li chiamiamo quelli del Kodakons? Aspetta. Un sarebbe interessante. Intanto ti ho chiamato un nostro, non dico amico perché non è un nostro amico. Che c'è? Ciao, caro. Che no, c'è? No, sono in diretta a sta Zanzara. Ma scusami. Chi è? Sì, i soliti quattro stronzi che chiamo. Tutto bene, ti chiamo dopo. Ciao, cavaliere. Ciao, caro. Ma chi è il cavaliere? Chi è? Chi era il cavaliere? Eravamo in diretta? Sì, ma chi era? Ah, scusami. No, cavaliere. Non è una persona, è un cavaliere. Paolo Mocavero, 100% animalisti. Eccoci qui. Buonasera, buonasera. Ciao. Ecco qua. Allora, ciao David. Mi ciao, sembra mi presentato sembra... come fosse Chiara Saraceno, Stefano Folli. Abbiamo con noi Stefano Folli. Molto no, meglio Mocavero di Stefano Folli. Scusa, Stefano Folli. Parlate più forte e lo sento una palla. Sì, pure sordo. Allora, anche dico, sordo. Mocavero molto meglio di avere Stefano Folli. Che ci fa venire il famoso latte alle ginocchia. Per carità. Vabbè, comunque. Ma no, voglio capire una cosa. Allora, mi sembra. Perché anche l'ospite si rompe i coglioni. Anche l'ospite stesso si va avanti tanto. Allora, cosa facciamo? Mi piace perché anche l'ospite è maleducato. In questa trasmissione, cosa che in una trasmissione normale non sarebbe, non è che se uno viene ai nomi dice allora cosa facciamo? Facciamo un'altra intervista? No, qui l'ospite, pure lui, diventa maleducato. Andiamo avanti, incredibile. Senti, Paolo, allora mi sembra che voi sei incazzato. Il Remida trasformi tutto in merda, tu, Cruciani. Quello che tocchi, trasformi in merda. Andiamo avanti, vai. Mi sembra che sia abbastanza incazzato sulla storia dell'orso. Sì, ecco, cioè, cosa l'orso. È successo? Facciamo cosa una premessa: un orso ha aggredito, ma gravemente, in maniera grave, due figlio, padre e figlio in Trentino. A sparargli, cosa vuoi dire? La regione dice che bisogna catturare quest'orso, sì, bisogna abbattere quest'orso, un orso pericoloso. Se ha aggredito un essere umano con tagli, ferite, eccetera, sì, eccetera. Abbastanza evidente. Mocavero si oppone, dice no, Mocavero non bisogna abbattere. Beh, insomma, non è che sono solo io che mi oppongo, parecchia gente in Italia, anzi, un buon 80% degli italiani questa storia sta sulle balle, quindi non è Mocavero. Ma perché? Sono gli italiani di buon senso che amano gli animali. E dà fastidio questa cosa, ma voglio dire, qui nel Trentino sono recidivi, non è una cosa nuova. Hanno preso dei soldi loro per introdurre gli orsi nel loro territorio. Ma ho capito, lascia perdere quello. Lascia perdere quello che hanno fatto. Se un orso è aggressivo, bisogna abbatterlo, Mocavero. C'è poco da fare. Sì. Cioè, oppure forse vuoi abbattere Fugatti, il presidente della regione. Meglio abbattere. Cioè, tra un orso e Fugatti, chi preferisci che viva? Non ho capito. Lo so, ma che domanda mi stai facendo? È chiaro che preferisco l'orso Fugatti, chi cazzo se lo incula, ma non ho capito. Scusa, non ho capito. Se devi scegliere se far sopravvivere un orso o Fugatti, scegli di far sopravvivere l'orso. Se fossi lui, Fugatti solo perché leghista doveva darsene a fanculo, solo questo. Ma lascia perdere che l'orso, quindi vedi te quando mi sta sulle balle Fugatti. Vabbè, a te sta sulle balle, Fugatti perché è un perché è leghista e perché vuole abbattere l'orso. Sta sulle balle perché ripeto, già che è leghista, già mi può stare parecchio sulle palle. Il fatto stesso però che voglio uccidere gli orsi e sarebbe già il secondo che fa fuori nel giro di un che anno sarà mai, che, sono. Che sarà mai un orso in più, un orso allora, in meno buttiamola, dai, buttiamola sempre a ridere, andiamo avanti. Ma non a ridere, ho capito, un orso che è pericoloso perché ha aggredito. Ma chi lo dice che è pericoloso? Non hai visto il bambino alcune settimane fa? Sì, ho visto, ma un non... bambino, certo, un bambino, cioè, ha avuto sangue freddo. Non è, a parte sangue freddo. Comunque, effettivamente, l'orso bastava lasciarlo in Slovenia, mi scrivono, invece di portarlo in Trentino. Bravo, tutto lì, anche questo è una cosa intelligente. Hanno preso dei grandi soldi al momento stesso che non foraggiava più nessuno questa introduzione degli orsi nel Trentino. D'accordo. Automaticamente, questi hanno tirato fuori prima il taglialenghe, dopo questo c'è. Cacciatori, perché sono due cacciatori, attenzione. Chi sono poi, cacciatori? Non uno è un macellaio, il padre no, è un macellaio. Non armati, scusa. È la mia colpa mia se questo fa lavoro di merda, non ho capito. Ma perché scusa, il macellaio adesso questo qua è il macellaio, fa un lavoro pure di merda. Perché? Beh, sarà bello portare gli animali. Ma non ho capito, allora ancora una volta era meglio che l'orso. Era meglio. Ma sì, se avessi bisogno lo farei il macellaio, certo che lo farei. Come mangio la carne senza macellaio? È un lavoro degnissimo fare il macellaio, adesso pure. Ah, non è un lavoro degno. Da vantarsene in giro. Sì, ma sì, ma se fossi un macellaio mi direi con orgoglio, non è che fai come fare il mafioso, non è un mafioso. Secondo me è un po' si vergogna di dirlo, comunque sempre. Cioè, non ho peggio essere, peggio di essere un mafioso macellaio, non ho capito. Ma non è neanche un paragone da fare, che discorso stai facendo? Cioè, a chi paragoni il macellaio come lavoro? Cioè, un assassino, no? Perché sono già morti gli animali. A un aiutante dei criminali, come lo paragoni? A chi lo puoi paragonare il lavoro di macellaio? Ma non c'è un paragone da fare. È macellaio, già basta e avanza. Cosa paragono, cioè, a cosa? Dunque, i macellai basta, no, avanza, dovrebbero chiudere. Basta. Dovrebbero chiudere i macellai. Il macellaio e basta. Come si fa a dire? Ma non dovrebbero neanche esistere per me i macellai. Non dovrebbero esistere. Chiudiamo le macellerie. Chiudiamo le macellerie direttamente. Ma perché devi buttare su? Chiudiamo le macellerie. E che fanno questi qua? Il macellaio non dovrebbe neanche esistere. E dunque, io macellai, amici, grazie a Dio, non ne ho e mai ne avrò. Basta, mai ne avrai. Dunque, se l'animale lo faceva fuori, come sembra, come era possibile che lo facesse fuori, tu non ti disperavi troppo se questo qua fosse, no? Questo qua magari veniva fatto fuori dall'orso, cioè, a te non te ne frega un cazzo. Era un cacciatore, quindi figurati lo spumante che andava via dopo. Ma scusa, ma non ho capito, ma a parte che dove l'hai letto? Ma perché che, devono morire le persone? Ma dove umani, l'hai letto, scusa, che era cacciatore? Io non ho letto mica che era cacciatore. Mo cazzo, no, no, ma ci sono altri notizie, lo dico lo stesso. Ma adesso lo stanno un po' nascondendo. Ma fosse però stato cacciatore, avrebbe sparato? E invece no. Ma no, che c'entra? No, vabbè, in questo periodo qua, apparenza, perché si sparano tutti? Non sai un cazzo. In qualsiasi periodo, quindi non si sarebbe difeso. Scusa, si sarebbe difeso. Non ci sarebbe da stupire. Avrebbe sparato in aria, se non altro. Un bambino e un genitore alcune settimane fa si sono comportati in maniera degna. Ma dunque la colpa è loro che si sono comportati. Ha provocato chi? Beh, passava di lì, è stato aggredito dall'orso, da quello che ha raccontato. Ma io secondo te, io credo a due babei o credo a chi devo credere? Ma quello gli ha tranciato una gamba. Gli ha tranciato una gamba al ragazzo di 28 anni. Ha una gamba tranciata. Ma come fai a dire? Ma come no? Ma come? I referti medici? Ma i testimoni, scusami, eri là a vedere. I referti medici l'hanno scritto i giornali, cioè mi sembra evidente. Cioè, artigli e zanne nella carne, cioè, ma questo è successo, amico mio. Ma sto ripetendo, non è che magari l'orso si è spaventato? Ma non lo so. Appunto, allora che cazzo stiamo parlando a fare? Ma che vuol dire? Ho capito, ma non è che andavano a caccia. La dinamica. Tu non sai la dinamica. Comunque, ma tu tra l'orso e quei due, tu fai il tifo, scusami, per l'orso. Fai il tifo, scusami, per l'orso. Ti sto dicendo che la dinamica l'hanno raccontata questi due personaggi. Ma certo, l'orso non la può raccontare la dinamica, mi pare chiaro qui la differenza. Ti sei risposto da solo. Di fatto, ripeto, uno è macellaio, l'altro è cacciatore, e io sinceramente a questi due fenomeni non ci credo. Non credi a questi. Dopo tu vuoi crederci padronissimo, David vuol crederci padronissimo. Ma no, ma certo che credo. No, ma credo a quello che ho visto, che, come dire, che ho sentito. I politici del Trentino, ma non solo perché, cioè, non l'ultima giunta, anche quella che c'era prima, che era di sinistra. Comunque, tra il presidente del Trentino e un orso, dovessi scegliere, butteresti giù il presidente del Trentino. Ti ripeto, cambiano i colori politici, però alla fine proprio nell'indole, nel DNA dei trentini, ammazzare gli animali, perché non sono solo gli orsi, signori hanno ammazzato anche le marmotte. Ma non è che c'è la caccia alle marmotte, ma ho capito qualche... Ma se muore qualche marmotta, sti grandissimi cazzi, te lo posso dire, se muori tu sti grandissimi cazzi, va bene, qualcuno se ne fotterà, certamente, altri no, ma ho capito, non puoi paragonare la marmotta. La marmotta a un essere umano, l'orso non è paragonabile a un uomo. Io non faccio paragoni, sto dicendo semplicemente che gli animali vanno lasciati in pace e l'uomo è dappertutto, è ovunque, rompe sempre le balle dappertutto. Vabbè. Nell'orso c'era l'orso. A casa sua. Senti, a proposito, voglio chiederti una cosa sulla Cina. Anche tu pensi che, come ha detto qui la Martani, che i cani sono uguali alle mucche, cioè che mangiare una coscia di cane sia la stessa cosa che mangiare? Ammazzare un cane, ammazzare una mucca non fa differenza. Attenzione, chi è che può dire un animalista vero? Non può dire capito, il contrario. Ho capito, ma in Occidente i cani sono considerati quasi sacri, sempre, direi, no? Se voi urlate, dopo io... No, ma ti voglio dire, se hai ragione. Allora, i cani in Occidente sono sacri, per fortuna. Cioè, sono animali che, cosiddetti di compagnia, appartengono alla nostra vita. Nessuno mangerebbe mai un cane in Occidente. È un'ipocrisia mangiare la mucca. Davide, stiamo dicendo la stessa cosa, forse mi sono spiegato male. Ho detto, se un animalista si incazza per quello che succede a Yulin, è un coglione, è una testa di cazzo, perché in Italia quello che succede a Yulin succede ogni minuto, ogni secondo nei nostri macelli. Ma le mucche sono diverse dai cani della concezione occidentale, però scusami. Ma chi se ne frega, per me, e sono superiore, sono avanti a queste cose qua, io sono avanti, ok? Per me è un cane. Ma i cinesi come li consideri? I cinesi pollo equivale a una formica. Come li consideri la formica? Adesso non esagerare. Se calpesti una formica, mica sarà un crimine calpestare una formica, no? La calpesto, la calpesto sicuramente, non perché la voglio calpestare. Il pollo lo ammazzi perché vuoi ammazzarlo, un po' diverso. Ho capito, ma la formica, se uno io ammazzo l'altra sera, mi sono trovato, a me fa schifo, aspetta, mi sono trovato ad ammazzare una zanzara perché mi rompeva i coglioni. Potrò ammazzare una zanzara dentro casa mia, cazzo, o no? Cioè, mi rompeva i coglioni, mi aveva punto 2-3 volte nel braccio. Mi sono alzato una notte, ho preso un libro e ho dato la caccia a una zanzara. Che cos'è, un omicidio? Un libro. Dai. Ci sono persone, come è successo a Roma, che hanno impiccato un cane, questo qua lo saprai. Ma questi sono dei criminali. Assassini. Esatto. Voglio dire, quindi ognuno nella vita può fare quello che vuole. Tu se una zanzara ti rompe i coglioni, ti rompe i coglioni, non la fai fuori, non la fai fuori. Mi interrompi, no, ammazzo il zanzario, no, ammazzo, ti fai pungere, perché fino a prova contraria i vegani non hanno il sangue marcio che sei tu e magicarne, quindi dire cazzate. Da quel punto, non dire cazzate, chiedilo qualche le zanzare non vanno sui vegani, le zanzare non vanno addosso ai vegani. Io parlo per mia esperienza, dopo non lo so, io parlo sempre, scusami, io parlo sempre. Tu sei vegano e dunque le zanzare non ti pungono, ma ragazzi è incredibile, dai. Non sono attirati dal sangue, la zanzara non è attirata dal sangue. Che fare i cinesi? O vuoi contestare anche questo? La Cina, i cinesi, sì, certo che ha tirata. I cinesi devono essere, si devono estinguere, dice. No, per me i cinesi non me ne no, sbagli, io non sono così. Che ne so, ha detto Rita dalla chiesa. È uguale al macellaio di merda che è andato a rompere i coglioni all'orso. Mi spiego il discorso, è chiara sta cosa. Cioè, beh, non esiste il cinese, l'aro, poi i musulmani, tutti a rompere le balle ai musulmani. Il musulmano, e David, qua voglio vedere se dice il contrario, la macellazione rituale è quella meno cruenta, se ci crediate o meno, perché bravo, soprattutto quella giusto, ebraica, e ripeto, David lo può confermare. Sempre macellazione. È quella dove l'animale soffre meno possibile, però, esatto, questo perché. Esatto, la macellazione ebraica, soprattutto, è quella meno cruenta. Ho capito, ma sempre macellazione è. Adesso che fai? Sempre macellazione è. Dai, su, adesso non fare. Infatti, per me non è. E cosa ti sto dicendo? Non c'è differenza tra quella ebraica e quella occidentale. Va bene, un'ultima cosa. Tra pochi giorni. Comunque mi scrivono: Cruciani usa i libri solo per ammazzare le zanzare. Questo è un commento giusto. Non c'è dubbio. Quello intelligente. Allora, l'ultima cosa che ti voglio chiedere è questa: tra pochi giorni si doveva svolgere, credo che ci abbiano invitato un palio virtuale, David, no? Se non sbaglio, sì, no? Ci hanno invitato un palio, si doveva svolgere il palio di Siena. Purtroppo quest'anno non si svolgerà per il coronavirus. Purtroppo, ragazzi, è una tragedia per Siena, per tutti gli appassionati, per l'economia locale. Scusami, nessuno contesta la tragedia del Covid, e te l'ho già detto, mi sembra una cosa sospetta. Io dico semplicemente che purtroppo, per quel che mi riguarda, è una vittoria di Pirro. Io vorrei tanto che i senesi dicessero: non facciamo più il palio, ne facciamo lo stesso palio. Lasciami finire il discorso. Io vorrei, questa sarebbe una vittoria. Questa è una vittoria del cazzo, perché non lo fanno, ma sono stati costretti a non farlo. È una tragedia, per forza. È una vittoria, è una tragedia. Chi cazzo è che gioisce di una cosa? Non si può. Infatti, non è una tragedia non io farlo. Personalmente, certo, se combatto, gioisco, ma così non ho combattuto. L'hanno eliminato perché sono stati costretti. Ma per te il palio che cos'è? Una cosa di orrore? Una cosa di orrore, il palio che cos'è? Diciamo che il palio, rispetto a tutte le gare, eccetera, è meno cruento rispetto a tante porcherie che ci sono in giro. Però ovviamente io sono contro il palio. Il palio a cavallo, insomma, a Siena usano un frustino, guarda e fa tanto una risposta. No, ma quale frustino? Perché usano il frustino, Davide, lo so. Ma i cavalli sono competitivi, ma che la consideri una cosa medievale? Come la consideri? Una cosa medievale superata da... Scusami, il cavallo è competitivo e ti do ragio, se no non correrebbe, è normale. È normale. Ma perché usi il frustino? Spiegami perché usi il frustino. Vabbè, ma che c'entra? Lasciamo perdere. No, poi vengono, vengono cavalcati senza la sella, cioè a pelo. Vabbè, anche per dare più meno stress però al cavallo. David, col frustino e di quelle stecche si prendono anche le immagini. Ma per forza, che devi? Cosa stai dicendo? Ma dai, su, ma per forza, che sennò come il cavallo come lo fai muovere? Su, come corre? Viene benedetto in chiesa, ragazzi. Lo amano, dormono col cavallo in chiesa. Sì, dire ai 50 cavalli che sono morti fino adesso a Siena. Infatti è una tragedia per un senese quando muore un cavallo. Non ho capito, il palio per te è una cosa di orrore. Il palio per te è una cosa di orrore. Che cos'è il palio? Per me il palio va abolito e basta. Non è questo di orrore, non orrore, questo va. Per me il palio va abolito come il circo con l'animale. Ad esempio, come se tu acquari. Dici. Io ho visto delle pubblicità in televisione che sono scandalose. Di a vedere cosa? Le foche che erano tristi perché non vedevano il pubblico. Ma ti faccio sono un esempio: le foche, ma le facche, foche. Sì, se tu gabbia, dici a un senese, ad esempio, se tu dici a un senese, voglio dirti che se tu dici a un senese che in Veneto mangiano la carne di cavallo, gli sfilacci di cavallo, ti dicono che sei matto. Infatti, sono i primi a dirti: ma come in Veneto i mangia carne di cavallo? Sono matti? Matti ti dicono. Quindi vuol dire che hanno amore per l'animale. Non ne sono ferma, anzi. Ciao Paolo, ci devo salutare. Ciao ragazzi, ciao, un ciao, abbraccio. Ciao. La Zanzara. È meraviglioso, meraviglioso. Ciao, sono Sebastian da Firenze e adoro scoparmi le grasse. I love my radio. David, 2% di share fisso! No, a pelle. Comunque mi scrivono, ma faccio finta di non sentire questi menagrami du menagrami. Mi scrivono che il nerbo serve infatti per percuotere i fantini nemici, non i cavalli. Beh, questo insomma, è l'altro grande cavalli danno, però, Comunque quando si dice a Siena ci sa il nerbo, vuol dire ci sa il nerbo, no? Cioè, ci sa anche la forza, il vigore, il polso. What I said the other night, there's never been anything where they have so many names. I could give you 19 or 20 names for that, right? It's got all different names. Wuhan was catching on. Coronavirus, right? Kung flu, yeah. Kung flu. COVID-19. I say, what's the 19? COVID-19, some people can't explain what the 19. Give me the COVID-19. I said, that's an odd name. Che è nato nel 2019, ma insomma lo sa perfettamente. Signor Trump che giocava, qualcuno ha detto, ma come si può permettere di giocare con i nomi? Dava i nomi al coronavirus, no? Molti nomi, Wuhan, Kung Fu. Il tuo amico Trump. Grazie. Se non ci fosse bisognerebbe inventarlo, signor Trump. Diciamo la verità. Ha previsto anche delle multe salatissime, l'arresto per quelli che abbattono le statue. Uno scombinato. Ma sì, certo, scombinatissimo, non c'è dubbio. Sia scombinato, non c'è dubbio. È Trump, non è che. Cioè, per carità. Con questa cosa è Trump, giustifichi qualunque cosa. No, ma non giustifica. E vabbè, è Trump. Ma certo. Su tutti, dice quello lì è il mostro di Firenze. Vabbè, è il mostro di Firenze. Dice quell'altro, Izzo, quel mostro del Circeo. È il mostro del Circeo. Cioè, in questo modo tu giustifichi qualunque cosa. Cioè, Pribiche, fatto così. Pronto? Aspetta. Ma perché non funziona? Allora, pronto, Dileto? Si parla? Sono Cruciani, ecco qua. Ah, salve. Dileto, allora. Buonasera. Buonasera. Allora, buonasera, lei vuole la sospensione di questa trasmissione. Diciamo la verità. Diciamola tutta in maniera molto chiara. Intanto, grazie. Parenzo è d'accordo, si figuri. No, perché vuole la sospensione di questa trasmissione? Scusi, Dileto. Avessi avuto l'amabilità di leggere ciò che ho scritto. No, ho letto perfettamente. Io mi vergognerei se fossi lei. Mi vergognerei. A parte che lei ha scritto se lo sputo lo profumo. Ha scritto. È una citazione. Sì, cioè, no, sarà una citazione. Ha il viva voce nel telefono. Scusi, signore del Codacons, ha il viva voce o l'auricolare. Mm. Se lo toglie è meglio perché sentiamo quello che dice, altrimenti non sentiamo e ci confondiamo. Scusi, Stavo registrando la chiamata. No, siamo in diretta qui. Ah, perfetto. E allora mi spiega un attimo. Giusta domanda. Lei tolga il viva voce l'auricolare e poi siamo a posto. Tolga il viva voce l'auricolare, così siamo a posto. Ci siamo? L'ha tolto? Salve. Allora, mi spiega questo suo odio. Non c'è nessun Galazia. Odio, lei non bravissimo, ha capito un cazzo. Bravissimo, come bravissimo. Al solito non ha capito un cazzo. Io non ho. Allora, ho... guardi, io capisco che l'educazione non è un opzionale. Ma lei non ha capito, lei non ha capito. Per me dovrebbe usare un minimo di educazione, perché altrimenti è una forma di rispetto nei confronti di chi ci ascolta. Dileto, okay? Scusi un attimo, Dileto. Lei però se non ha capito, non ha capito, perché io non ho io non odio nessuno. Io ho semplicemente detto che il problema che forse lei ha qualche problema a spiegare. Ma no, no, io ho detto perché. No, ma guarda che incredibile. Sei mai stato a Catanzaro? Uno non può esprimere un giudizio estetico su Catanzaro? Cosa c'entra questo con la sospensione della trasmissione? E, ma guardi, io vado ai matti con Dileto, vado ai matti, coda con Sacalabria. Vado ai matti. Poi lei scrive pure se lo sputo, lo profumo e parla di educazione a me. Parla a me di educazione. Se lo sputo allora, guardi, scusami, io capisco che lei abbia bisogno di ascolto e stia montando una polemica su nulla. Io la polemica? L'ha montata lei la polemica! Mi stanno antipatiche. Detto ma questo, io non ho odiato nessuno. Io penso non ho espresso... che lei debba chiedere scusa. Ma io non chiedo scusa e a nessuno. Sarebbe un gesto onorevole per lei. Scusami, amico prendo mio. Atto che non gliene frega assolutamente niente, perché probabilmente è interessato ad arrabattare. Scusami, ascolti. Dileto. Dileto, io non ho nulla contro di lei. Io già ho difficoltà a capire perché esiste il Codacons Calabria, però va benissimo, esiste la sezione Calabria del Codacons e va bene. Allora, lei dovrebbe smettere di perdere tempo denunciando questa trasmissione, chiedendo addirittura la sospensione, che è una cosa illiberale, illiberale, dopo aver scritto, certo è una citazione, se lo sputo nei confronti di chi sei. Odio, non ma semina che odia che liberale. Ho detto che se Catanzaro è brutta. Ho detto che Catanzaro è brutta. Ho detto che Catanzaro è brutta. Avrò il diritto di dirlo o no? È razzismo dire che Catanzaro. Ma chi se ne frega? E io quello chi ho detto. Frega, quello però. Ho detto. Hai una trasmissione come la sua. Mandare un messaggio del genere in questo preciso momento con un paese in ginocchio che cerca di risollevarsi. E lei dice di non andare in un posto perché fai un cesto. Io non ho detto è questo. Una cosa vergognosa. Ma non l'ho detto che non bisogna andare. Ho detto che ha fatto pubblico. Ma non l'ho detto. Non l'ho detto. Ma allora. Ho detto, guarda, amico mio Dileto, ho detto, ho detto una cosa molto semplice. Ho detto, è vero o no che non ci sono città a livello iconiche, città simbolo, a livello di Venezia, a livello di Firenze e di Roma? Ho detto, guarda, sì, non cosa. Ci sono città simbolo. E allora ho aggiunto, cosa, sei mai stato a Catanzaro? Ho il diritto che di dire che Catanzaro è brutta o no? O non ho il diritto? Lei può fare quello che vuole, le dirò una cosa, che l'estate... I turisti cercano il mare. Ma che c'entra il mare? Non ho parlato del mare. Mare ma certo, ma non ho... Poi lei le vacanze le può passare tranquillamente. Questo è il Codacons. A fotografarsi su Instagram perché questo così abbiamo ridotto questo paese. Questo un è il paese Codacons. Virtuale. Se lo sputo ma lo profumo. Vuole farsi il bagno. Se lo sputo lo profumo. La gente, questo è il Codacons. Se lo sputo lo profumo. Lei, se vuole sapere cosa fa il Codacons in Calabria. Se lo sputo lo profumo. Lei è il rappresentante del Codacons e ha scritto di me se lo sputo lo profumo. A me me frega un cazzo. Me ne sbatto i coglioni. Però questo ha scritto. Lei rappresentante del Codacons dei consumatori, poi bisogna vedere quanti consumatori, ma comunque lasciamo perdere, e ha scritto di me se lo sputo lo profumo. Questo è il Codacons. Io non ho parlato di mare, il mare è bellissimo in Calabria, ho parlato di Catanzaro. Avrò Catanzaro sul mare, forse anche questo le sarà. Ma sentito, figuriamoci, parlavo di Catanzaro, quella che è su una piccola collina, non diciamo stronzate, su, parlavo Catanzaro di Catanzaro sul mare, ma di che cosa Cruciani? Forse sarebbe il caso di ritornare alle scuole medie. Dai, su, non diciamo che. Poi avrò il diritto di dire che Catanzaro è brutta. Avrò il diritto di dire che Catanzaro è bruttina? O no? È tra le città più bruttine di. Lei ha il diritto di dire ciò che vuole, così come io ho il diritto di chiedere di sospendere una trasmissione in cui ci dicono solo cazzo e culo. Sì. Ma questo che c'entra con Catanzaro, però? Scusi, che cosa c'entra con Catanzaro? Questo cosa è un altro argomento. Questo con Catanzaro, però, questo, se posso permettermi, è un argomento forte, vostro onore. Cioè, qui abbiamo da una parte l'esponente del Codacons della Calabria. Che pone anche qui, però mi permetta adesso, però Codacons Calabria con tutte le cosette che ci sono in Calabria, esatto. Forse, ma lo dico stando dalla sua parte, perché anch'io voglio la chiusura di questa trasmissione. Certo, poi andrò a rimetterci una buona parte delle mie entrate, avendo poi però un altro figlio in arrivo, sarà Calabria, però il Codacons virgola, Calabria si dovrebbe occupare caro, di Drangheta, no, di dire Drangheta sì. Però cazzo, amico Urani. Caro virgola però virgola amico caro virgola sì. Il Codacons Calabria sa com'è. fa un po' effetto che si occupi della... di una trasmissione che per carità è molto ascoltata, piuttosto che delle tante questioni locali che il genius Loci produce. Questo lo direi, lo dico anch'io. Se è possibile intervenire, vorrei ricordare a qualcuno che di Lieto, lei non è di Lieto, lei è di si occupa di mala qualità, e grazie al Coda con sono state scoperchiate una marea di porcate. Sì, io faccio il tifo per Fedez, altro che Coda Cons. Chi era contro quello che gli pare? Chi era contro Coda Cons, Fedez o contro l'altro? C'è stato anche cose. Sì, c'è stato tutto un conflitto, eccetera. Io dico, lei non è di Lieto, qual è l'opposto di Lieto? Incazzato, è di incazzato, no, non lieto, di infelice, non lieto, di lei non è di Lieto, triste, capito? Di triste. Lei è, cioè lei è di triste, cioè le, dovrebbe, triste. Ma come si fa? Però ha le sue ragioni, cioè c'è un fatto. Ma non c'è nessun punta, fatto sulla chiusura della trasmissione in punta di diritto sulla sospensione anche... perché cosa? Beh, perché lei vuole la sospensione di questa emissione radiofonica però di Lieto? Sì, però sì, di triste, perché? Di triste, perché? Ma guardi, non sono triste, prendo atto di questa situazione. È una trasmissione che non mi piace, ma certo. Chi non se mi piace ne frega? Perché semina odio. Ma detto se... questo, il Coda con Fin Calabria si occupa di Ndrangheta, ma come? Se occupasse di cose serie, non della zanzara, non rompesse più i coglioni a questa trasmissione. Oppure quindi lui... lei mi sta dicendo che la sua trasmissione non è una cosa seria? Io sto dicendo che questa trasmissione è una cosa molto seria, molto interessante. No. Scusate, si gioca, no, non rompesse più i coglioni, nel senso che non è la... chiedere la sospensione, lei può interessarci, sì, ma chiedere la sospensione di questa emissione radiofonica sospensione, per una frase che io non ho detto, perché io non odio la Calabria, non odio Catanzaro, ho semplicemente detto che è brutta. Il contrario, Cruciani, ma che difficoltà? No, io ho detto che è brutta. E posso dire che è brutto o no, Catanzaro, cazzo? Oppure bisogna avere l'avallo del Codacons, il permesso del Codacons, cazzo, per dire che è brutta Catanzaro. Su, dai. Io posso chiedere di sospendere questa trasmissione, ma lei perché può chiedere, semina odio? Bene, va, chieda alla Confindustria, vada dal presidente della Confindustria, come Codacons Calabria. Non diamo suggerimenti troppo carte azzardati, bollate, così lei è contento. Benissimo, arrivederci e grazie. Mi raccomando, buon lavoro, faccia tante lettere, protocolli, carte bollate, imbuchi la lettera e siamo a posto. Faccio cose un po' più serie rispetto a lei. Fermo, infatti si vede, fermi tu. La zanzara. Sono Gianluca da Monte Carlo e anch'io mi faccio il bidet nel lavandino asciugandomi con l'asciugamani delle mani e della faccia. I love my radio. La zanzara. I will not hesitate. My orders are sa police pati military, pati mga barangay. Shoot them dead. Forza il Duce, ti abbraccio Giuseppe. Eccola qua, eccola. Saluta un po' sta manica dei froci. Dica che sono quattro froci questi. Siete quattro froci? Eccoli, ma venite a trovarla sta ragazza, ma no? Venite a trovarmi, no? Che grappolo dei froci. Che la pandemia fino alla fine di questo anno, il 2020, c'è, rimane, non se ne va. Perché tra l'altro anche il più stupido degli umani capisce che non si può dire che la pandemia è finita finché ecco ci sono virologo. Ogni giorno dei ecco morti. Ecco il virologo della zanzara. Melagramo dopo melagramo. Allora ragazzi, avete ecco sentito il virologo prima della zanzara. Mamma mia, beh, tanto la pensa come te, eh. Avete sentito no, prima? No, no, guarda, beh, la pensa come te, querelo, la pensa come te. Querelo. La pandemia c'è, rimane. Chiamo state un attenti, avvocato c'è a Padova e ti querelo. Allora, la ti pandemia, la, sì, la pandemia, Algero, alle prese col suo lobo, cioè ha messo ma sotto olio conto, un lobo dell'orecchio. Ti rendi conto di cosa stiamo parlando? Chiamiamolo, ti prego. Pronto? Oh, finalmente riesco a parlare con te, Algero, Cruciani. Fratellino. Chi è? Fratellino, sono Cruciani. Ma fratellino. Mamma mia, Crucia. Mamma mia, quanto tempo che non ci sentiamo, lo sai che te voglio bene, cioè alla fine. Ma che bene. Alla fine io voglio bene. È un criminale, è un criminale. Ma ho capito, io voglio bene lo stesso. Già cominciamo a storia del criminale. Lascia perdere, cos'è, mica basta. Però non è che stiamo parlando con la comunità di Sant'Egidio, scusami, adesso perché ho capito. Scusami, Ange, ho sentito una cosa ieri alle Iene, no? Ho sentito una cosa che mi ha fatto impazzire sta cosa. Ma scusa, ma è vero che ti sei tagliato i lobi delle orecchie e hai messi sott'olio? Ma Vabbè, ma che non lo sapevi? Non lo sapevo, che te devo fare? Ma è una roba intelligente, secondo no, te? No, ma è straordinario, la trovo straordinaria. Non la sapevo. Come, ma perché tu non hai capito che io non ho limiti, allora? Io sono pure un chirurgo. Ma beh, adesso qualcuno te l'ha tagliati, non è possibile che l'ha tagliati da solo, dai, scusate. Spiegami come avvenuto. Io mi sono messo davanti allo specchio, me li sono disegnati e tagliati. E per sangue, poi come hai fatto? Come un sarto. Sì, ma come hai fatto poi in qualche modo ti sei dovuto curare? Che cosa hai fatto dopo? Ah, sì, per farmi mettere i punti sono andato all'ospedale. Ma è una cosa intelligente, secondo lei, amico caro, questa cosa che lei ha fatto? Ma è una cosa self-made, capito? Ma scusa, senza anestesia, senza niente, così a secco? Ma l'anestesia è da uomini. Cioè, l'anestesia non è roba da uomini, è roba da, dice, roba de froci, dice l'anestesia. Beh, certo. Beh, ho capito io, però cioè, non è che uno si taglia. Io posso permettermi di non credere a questa cosa qua. Scusa, te lo posso dire. Cioè, il fatto guarda, che tu hai... che stanno le prove, c'è sta tutto, però sei libero di non credere se poi non dormi la notte, eh? No, io per questa cosa qua ieri sera non ci ho dormito. Cioè, non ci ho dormito. Appena ho visto quella roba là, non ci ho dormito. Ma è un errore assoluto. Ma dove, cioè, quanto sono grandi sti lobi? Tutte e due le orecchie? Uno non ce l'ho perché l'ho buttato. Uno è conservato. Comunque sì, tutte e due orecchie, perché comunque devo metterle a paro poi. Beh sì, quelle è vero. Uno so, cioè, parliamo di orecchie, devo metterle a paro. Parliamo delle orecchie. Beh, capito? Certo, per forza. Ma uno come è se certo. Fosse il capello, certo. Ma come certo? Cosa dite? Certo, e l'altro che lo tratta normalmente. Ma che roba è? Ma non ho capito, ma Sottolio che vuol dire? Questa è una chiamata normale, amichevole. No, ma dico, per Cruciani è normale che uno si tagli il lobo dell'orecchio, scusa? Ma scusa, ma se tagliano pure ai cani, non ho capito, perché mo non mi posso tagliare da ma solo? Questo è pazzo, ragazzi, è matto. Scusa, ma Sottolio, adesso dove ce l'hai? Dentro una cosa? Dove ce l'hai? Sì, a casa qua con me, stanno dentro... C'ha presente i barattolini da marmellata? Là dentro. E che cosa ti se ne fai? Cioè, dentro un barattolo marmellata con l'olio sotto, c'è il lobo del tuo orecchio là. Sì. E che ce fai? Io lo conservi? Che lo conservi? Come questo è il lobo dell'orecchio di Angelo. C'ha presente Michael Jackson, no? Quando è morto gli hanno venduto il guanto suo a qualche milione d'euro. Un giorno ci avranno da vendere il lobo del 1727 a qualche miliardo. Sì, ma ho capito. Ma quale miliardo? Ti ricoveri in un ospedale psichiatrico, non è che lo vendono. Ma a me già ci hanno provato, infatti guardate, ho detto, fratelli, sta calmo, io sto bene, mi sono solo fatto un po' di chirurgia da solo, capito? Scusa, perché sennò siamo nell'irrealtà. A me comunque la cosa che mi fa impazzire è tuo padre, prima o poi voglio parlare con tuo ma padre. Chi è, cioè, tuo padre? Padre, tuo padre è un personaggio. Cosa fa di grazia il papà? Di cosa si occupa il papà? È un avvocato. È un avvocato. Ride da solo. Nel senso che si occupa di carcere, diciamo, suo padre, immagino, no? Anche il padre. Sì, qualcuno avrà pure sistemato, dedica la verità. Sì, ho capito. Cioè, tuo padre non mi sembra di essere uno di quelli che va troppo per il sottile, cioè no? Cioè, quando deve affrontare le cose le fa in maniera piuttosto, no? Piuttosto ecco, decisa. Di cosa si occupa esattamente il padre, no? Per capire. No, di commercio, credo, no? Di commercio, sì, o sbaglio? Sì. Mio padre era un carrozziere che modificava al top proprio i veicoli, come capito? Modificava? Per il trasporto merci. Trasporto merci. I veicoli? Per il certo. Trasporto merci. Ma il trasporto di che tipo ha di conosciuto, merci? Ha conosciuto qualche, come dire, qualche istituto penitenziario italiano tuo padre oppure no? No, se dice a Roma, se dice che chi non ha salito i tre scalini comunque ne è omo, quello pure. Beh, oddio, adesso io chiedo scusa, ma però no, per ora non mi è mai... ti senti poco uomo. Mi sento molto poco uomo, anche tu, Cruciani, non lo so. Magari i tre scalini, no? Il tatuaggio di cui vai più fiero, diciamo, qual è il tuo tatuaggio di cui... gli ultimi tre tatuaggi che mi sono fatto in faccia, che sulla hai fatto, testa, che hai fatto sulla e testa, sono rispetto, fiducia e verità. Rispetto, fiducia e verità, rispetto, vabbè, rispetto, che te devo dire? Cioè, uno va fratelli, rispetto, vabbè, ho capito. Cioè, rispetto, come dicono, rispetto. Ma ce l'hai qualche Mussolini? Qualche Mussolini tatuato, non ce l'hai, no? Qualche... No, quello è brasiliano. Quello, sì, lo so che è il brasiliano, tu non c'hai un cazzo. Qual è la cosa più estrema che hai tatuata? Perché non t'ho visto bene intero. Ce l'hai pure sul pisello i tatuaggi oppure no? Te li sei fatti sul pisello? Ci dobbiamo arrivare. Ci dobbiamo arrivare. Comunque, quant'è? Comunque, c'ho un ti uccido sulla gola, il 666 in fronte. Ah, ti uccido sulla gola, cioè, ti uccido. Beh, è un messaggio irenico, mi pare, no? Un messaggio di pace. Ma irenico non sa che vuol dire irenico. È molto di pace. Sì, molto non di pace. Non sa cosa vuol dire irenico lui? Ma non lo saprà irenico, che giustamente... No, io sta roba non ha frequenza. No, vuol dire... No, America, che è? No, irenico vuol dire... America, che è? Sì, è un messaggio di pace, sì, diciamo. Ma che è l'Iliade, Ma sì, ma appunto... Ma che è l'Iliade? Ma non sarebbe un crimine citare l'Iliade, però, scusi. Comunque, non il messaggio, scusami, fratelli, il messaggio che c'hai sul... è ti uccido. I kill you. Quello vale per tutti in generale, vale per tutti come messaggio, diciamo, come messaggio fondamentale. Sì, in ogni ambito, sì, in ogni situazione. Comunque, dopo aver fatto perché tutto lei questo, non si tatua io leggo, ad esempio. Sarebbe bello. Io leggo. Ma sarebbe come? Una bugia. Sì, appunto, sarebbe una bugia. Comunque, ti potresti tatuare anche l'uccello. Pare che tu sei abbastanza dotato. Sembra che sei abbastanza. Io me lo voglio tatuare. Ti vuoi tatuare? Che scrivo I love you, così c'ho I kill you sul collo e sotto I love you. I love you sull'uccello. Ma è pieno di idee. Hai opposti, capito? Siete persone piene di idee, vedo. Ma io penso che tu non sei molto dotato da quello che dicono, eh? Cioè, lo dici tu, ma mi suggeriscono che in realtà non sei dotatissimo. Non sei dotatissimo, però non ma so. Ma ne penseranno pure i fatti miei, poi, No, sì, quello è vero, questo. L'importante è soddisfare la propria donna. Questo non c'è dubbio, non è importante la misura, ma è importante rendere... Come si batte la mazza sul chiodo. Assolutamente. Il prossimo passo qual è? Il prossimo passo qual è? Cioè, dopo tutto questo, cosa si può fare? Cioè, questa è la domanda. Ma io sinceramente sto aspettando la Barbara D'Urso. Ah, stai aspettando la D'Urso, questo è interessante. Cosa vuol dire? Di andare dalla D'Urso, Ma certo. Di monetizzare, amico come mio, certo? No? Di passare all'incasso. Ma che mondo è? Se vuole andare dalla D'Urso, lasciala andare dalla D'Urso. Ma cioè, io pensavo di dire, cosa sto aspettando di leggere un bel libro, ad esempio. Ma ancora con sti libri. Ma no, va bene. Che serve leggere un libro ad Algero? Non serve un cazzo. Ma io già so tutto. Ma io già so tutto. Lei già la famosa tutto. Scuola della vita, come sai, no? La famosa scuola della vita. La famosa scuola della vita. Comunque, guarda, secondo me dalla D'Urso dovresti portare il lobo tagliato sott'olio. Questo sì, anche fa ascolto, dai, che fa ascolto. No, che funziona il lobo, e finalmente. Freccero, funziona. Sì, sarebbe per corto. Mi dispiace, naturalmente, che esistano soltanto due lobi. Naturalmente, perché se ne esistesse un terzo, sarebbe da tagliare in diretta live. Infatti, si chiama D'Urso Live. Domenica live. Lobo live. Tagliare dalla D'Urso in diretta, tu dici Freccero potrebbe tagliare Algero 17:27 potrebbe un altro tagliare pezzo di lobo, un altro pezzo di corpo diretta, diciamo, un altro pezzo di corpo. Molto bene, ma vedo ma che cominciamo a capire il format. Ho fatto pure un orecchino da solo, mica ci stanno problemi. Io prendo un buco, io non lo sento. Ho capito, dolore. Ma che devi non lo sento. Ma che puoi la tagliare? Libertà al pubblico di decidere che cosa tagliare. Esatto, il pubblico che decide cosa tagliare. Cosa taglieresti democrazia tu? Democrazia diretta. Ma guarda, in diretta l'unghie mi posso tagliare. No, ma le unghie bando debole, non fa ascolto. Uno questo non fa ascolto, non fa ascolto. Unghie. Ma cosa siamo? L'amica geniale qui, dai, che non funziona. Tagliati un dito, potresti tagliarti direttamente un dito dalla D'Urso. Così, dopo ma sì, lobo. Che te ne frega, ne hai altri 9. Tanto esatto, ce ne ho 10. E che te frega, ne hai altri 9. Appunto, quello bellissimo, detto, esatto. Sarebbe straordinario, dai. Sì, perché effettivamente sì, perché ne hai 9. Se il buon Dio te ne ha messi in più, oggettivamente, ne ha messi in più, no? Scusa, so 10. Se anche se ne perdi uno, che cazzo sì, te ne frega? Che te ne frega? Ti fai dare 10.000 euro e via. 10.000 euro non te taglieresti. Sì, un dito non vale 10.000 euro. 10.000 euro un dito. O fai o no? Mezzo ma che, dito. Ma che vedete fumati? Mezzo dito. 20.000. Ma l'unghia. No, che l'unghia. Mezzo dito. Almeno. Non c'è budget. Dai, che non c'è il budget. C'è il problema del budget. Sul dito. Ma io, se poi esco da là che manca un dito, se permetti, almeno mi devo comprare un palazzo. Ma no, ho capito. Ma non nessuno. Amico mio, quello no. Budget arriva a 40.000 euro. Tagliarsi tu mezzo dito. La prima falange. Io per la prima falange posso pensarci. La prima falange, ecco qua. La prima falange. Ecco sì, prima falange. La prima falange in diretta dalla D'Urso. Lo vedi che fa sconto. Prima questo, falange, dai. Quanto? 30.000? Chiudiamo a 30 per tagliare la prima falange? Ma non ho capito, ma sta parlando del pezzo di corpo tuo del mio? Ma come 30.000? No, il tuo, perché così poco vale? La prima falange, te ne rimangono tante altre e ti rimane completamente l'uso della mano e del dito, anche perché una falange oggettivamente cosa se ne fa uno della falange? Te ne fai mettere una dopo, te ne fai mettere una. Ma siamo oggettivi, a che serve la falange? C'è scritto in tutti i libri, serve a niente la falange, cioè, la falange, ma che serve? Dai, al Gesù, ci puoi sta, offri alla D'Urso, mi taglio la falange in diretta. Mi taglio la falange, dai, che fa ascolto, su, dai. Funziona. Sì, dai, però 30.000 non si può fare, dai. 30.000 no, di più voi, più di 30.000, vabbè, ragazzi. Vabbè, al gente, saluto. Sai che non so se si possa contrattualizzare una cosa simile? Non credo che sia contrario alla legge contrattualizzare il fatto essere. Che un signore si... può essere così. Sì, ma che scherzi. In diretta così, vabbè, dai, 30-40.000 ci siamo, dai. Va bene. 40-50, dai. Famo tra 40 e 50, vai, ciao, ciao. 40-50. Ciao. Fineco, la banca numero uno in Italia nel trading, vi presenta La Zanzara. Chi vende droga deve marcire in galera per anni. Chi vende droga deve marcire in galera per anni. Ma che cazzo di roba mi avete dato, brutti stronzi? Mi stai girando la testa. Vedo lampi negli occhi. Ma che roba era quella? Roba tagliata male per cazzo? Zanzare e marijuana, oh oh oh. Zanzare e marijuana, oh oh oh. Zanzare e marijuana, oh oh oh. Zanzare e marijuana, oh oh. Vuoi propagandare la droga? Stasera sei proprio carico, sei grandissimo. Sì, sono due settimane che sono carico. Nonna. Guardala bene. Che? Guardala bene. Oh. Ah, tutta la fai. Che te vuoi? È finita, vedi. Barisoni gay. È meraviglioso, meraviglioso. Ciao, sono Luca da Verona e talvolta ho rovesciato della birra sulla vagina per una degustazione sinestetica. I love my radio. Non esiste, non li sopporto. Maledetti, maledetti. Mi riferisco a quelli che ammazzano i cagnetti in strada e se li mangiano. Mi chiedo com'è possibile che una potenza come quella cinese possa ancora permettere sto schifo. Ma io, se fossi il ministro degli esteri, farei una telefonata e rimanderei a quel paese. Me ne fregherei dei rapporti diplomatici. Sarà perché io amo gli animali. Non mi toccate i cani. Ho una sensibilità tutta mia particolare per i cagnetti. Adesso proseguiremo con Spadrino, però devo dirti la verità, che mi preoccupano spesso le persone che hanno una sensibilità particolare per i cani. Non voglio usare un paragone scomodo, caro Davide, però qualcuno può ricordarsi, non lo faccio, in generale, non lo faccio perché sennò rischio qualche cosa, però mi ci ricorda sono dei qualcuno nella storia. Che accarezzava, no? Accarezzava. Nella storia ci sono dei pericolosi precedenti. No, io dico in generale, nella storia c'è gente che accarezzava magari un pastore tedesco, e dico poi commetteva così. Le peggiori... Dico così, non c'è un riferimento peggiori, di... I peggiori però diritti, quelli che sì, si sì. preoccupano tanto per la... No, per gli animali, poi alla fine non so perché poi possono essere anche responsabili. Non è il caso di Spatarino, perché no, che lo abbraccio fortissimo. Però quelli che mostrano una estrema sensibilità non è detto che siano poi buoni di animo nei confronti degli esseri umani. Non è detto, non sta scritto da nessuna parte. Ricordo un signore con i baffetti. Ah, ripeto, pensavo parlassi di Andro Mercù. Pensavo parlassi di Andro Mercù. Hanno detto giustamente. Pensavo parlassi di Andro Mercù. Quello che c'entra, quello. Il nostro Andro Mercù. Torcerebbe un ma Mercù è un cognome. Ma Mercù è d'arte. È sloveno, cioè, come si chiama veramente? È sloveno. Così no, ma il nome così. Vero qual è? Quello, ma no, quello. Dai, sì, ma è un cognome sloveno. Andro Mercù, nome d'arte. Come si chiama davvero? Franco D'Antonio. Ma che di Franco Trentalance? Che cazzo. Come si chiama veramente? Così si chiama. Non dire cazzate, si chiama così. Ma no, Mercù. Non è comunque, possibile, ragazzi, Andro. Io ricordo un ma signore. Andro, il nome io... di battesimo qual è? Andro, cazzo. Io ma ricordo un signore. Andro, ricordo dai. Un signore. Non voglio fare paragoni, ripeto, perché lo bre. Un signore con i baffetti. Con i baffetti. Tutto sempre con la divisa, eccetera, con quei capelli, no? Con quel riporto nei capelli. Non era proprio un bel vedere quel signore, no? Giusto, Parenzo? Non era una cosa bella da vedere quel signore. Nato, nativo dell'Austria, no, originario no, dell'Austria, no? No? Che accarezzava, era, si dice che era molto, molto appassionato di animali, volesse molto bene ai suoi animali. O sbaglio, caro Davide? È esattamente così. Comunque, purtroppo. Sai che ti sto vedendo nella. nella webcam, nella telecamera interna. E da qui a lunedì prossimo dovresti fare una piccola dieta, diciamo, veloce, rapida. Hai messo su una panza, amico mio, mortacci. Quale panza? Hai messo una panza su che è inguardabile. Quale panza? Da qui a lunedì credo che i signori della 7 dovrebbero importi una dieta ferra. Guarda qua, a meno altrimenti sei inguardabile. Ah, voglio dire, perché invece Telese è magra adesso. Però, capito, no, quello no, però quello si sa, lo si conosce in quel modo, in quel modo. È maraviglioso, maraviglioso. Cioè, dalla parte tua. Se lei, signora, se lei, signora, interviene meno, mi fa solo una gentilezza, cara. Spatalino. Sti quattro incivili! Perché mi chiedo, come puoi tu ammazzare così in strada un cane? Te lo mangi! Ma non esiste! Sono dei barbari! Poveri cagnetti che hanno la sfortuna di nascere in Cina! Daddy! Li prendiamo noi! Li porto da Toninello, li portiamo nei nostri canili. Basta ammazzare cagnetti! Vergognatevi! Vi combatterò sempre! Neanche sotto tortura andrei in Cina! Gratis niente! Non li sopporto! Il Padre Eterno vi ha castigato per questo! Lasciate stare i cagnetti! Maledizione! Che male hanno fatto quelle povere bestioline! Non li sopporto, sti cinesi! Portateveli a casa vostra! Viva Trump! Viva 100.000 volte Trump! I will be the greatest president that God ever created. Allora, andiamo, direi... Ah no, riprendiamo una telefonata dell'inizio che l'hai trattato malissimo, Mimmo dalla provincia di Bari, che è l'autore del libro Scalda Camionisti. L'hai trattato di un male, Mimmo La Stella, l'hai trattato malissimo. Un signore che si presenta sempre con gli occhiali neri come me, in realtà. Un gufo, un uccello del malaugurio. Sì, è uno... Ma è vero che sei nato nel 70, scusa Mimmo, non ho capito. Mimmo? Sì, sono... Ciao! Cazzo, ma dalla foto sembra che sei un vecchio dei de 70 anni, dalla foto, che sei... Io del 70, sono. Sei del 70, no. Cioè... Sì. Del 76. Ma sì. Hai scritto questo libro, La Scalda Camionista, quello con Morena Capoccia. Parenzo, te l'ha pure regalato sto libro? Sì, gentile, no? È la biografia. L'abbiamo regalato a Parenzo. Guarda, io non sono solito usare i libri per accendere i caminetti. Perché, ripeto, non sono solito, perché la pratica di bruciare i libri è una pratica che apparteneva ai nazisti. Nel suo, infatti non ho mai bruciato un libro, nessuno. Nel suo caso, non, ovviamente manterrò questa tradizione e lo userò per fissare i tavoli, però. Il tavolo di casa lo metto sotto per fissare il tavolino, metto sotto il libro questo della. Però, caro Mimmo, tu sei anche detto, direi una cosa molto grave questa cosa, sei anche detto il re dell'incesto addirittura, una cosa di una gravità come se fosse una cosa normale. Perché lo tratti come fosse un vero scrittore? Ti spiego, fammi spiegare. Allora, io nel 2010 iniziai a scrivere romanzi erotici. Racconti erotici, erotici. Tra cui Storia di vita vissuta, Patti con la profonda, Storia di straordinario meretricio, Cagna silenziosa e altre. Vabbè, sei un vecchio porco, dai su, Mimmo. Questa male. È la realtà, sei un vecchio porco. Diciamola, però non c'è niente di male, sei un vecchio porco. E diciamo porco. Una cosa in più, diciamo che questo è il tipico ospite che in onda non troverai. Posso dirti questa cosa in più? Guarda che te lo spedisco fuori, te lo spedisco fuori. No, non è questo di spedire fuori. Te lo spedisco il fuori con il cartello. Ma non è, scusa. Vabbè, Mimmo, che cazzo vuoi? Non ho capito, oltre a dire il libro Scalda Camionisti, d'accordo, La Troia di Spoleto, d'accordo, che minchia vuoi, perché hai chiamato? E niente, ho chiamato per perché non è un cazzo da fare, questa è la realtà, per pubblicizzare, no vabbè, un cazzo da fare ce l'ho, però insomma, ho chiamato per dire che sono io l'autore, se volete potete acquistare il libro da te la sei fatta La Scalda Camionisti qualche volta? No. Anche tu? Te la sei fatta La Scalda Camionisti? No, non me la sono fatta. Ti fa schifo, diciamo la verità. Non mi fa schifo. Bah, io sono un amante delle femmine grosse. Sei un amante delle femmine grasse. Delle femmine grasse. Sei un vecchio porco. È una persona orribile, glielo posso dire, la metto anche la giacca perché diglielo un attimo. Lei è una persona orribile. È una persona orribile. E secondo me lei è una persona orribile perché ha scritto un libro dal titolo indegno e la scalda camionisti. Vergognoso. Ma perché? Perché non mi sembra concorra allo Strega. Oggi, ad esempio, ero a colazione con il grande scrittore Caro Figlio e De Cataldo. Ero con due grandi. Ma voglio ricordare che c'entra. Non so se loro apprezzerebbero perché non. Però cioè, oggi ero a fare un pranzo di lavoro, ma è bellissimo. Abbiamo passato due ore a ragionare su una ero con due veri scrittori, Caro Figlio e De Cataldo. E tu dici che Mimmo dalla provincia di Bari. Il signor Mimmo dalla provincia di Bari, che per carità ha tutto il mio rispetto. Però un vecchio porto. Ora, un dedicare vecchio porto, 20 minuti di trasmissione alla presentazione di un libro. Un libro che ha come titolo La scalda camionisti. Ecco qua. La Troia di Spoleto. Tu dici non è il caso. Io dico che su. Ecco, mi chiedo come mai, ad esempio, nell'inserto della domenica del Sole 24 Ore non compare recensione alcuna su questo libro. Posso dirti che forse le copie. Come mai nell'inserto di Robinson di Repubblica non compare fino ad oggi questo libro? Ancora, come mai nella lettura del Corriere della Sera di proprietà del dottor Urbano Cairo, al quale mandiamo grandi saluti, non compare recensione alcuna di questo preziosissimo livello? Come mai, chiedo? È uscito Mimmo, sì, vabbè. Ciao, comunque ti piacciono le donne grosse? Ma vai a fare in culo tu, vai a fare in culo. Giuliano dalla provincia di Verona, avanti tutta, dai. Giuliano, dimmi. Giuliano. Pronto? Dimmi, Giuliano, dimmi. Niente, io dicevo che... Per quello che riguarda l'orso, non è necessario abbatterlo. Ragazzi. È sufficiente andare nel bosco con qualcosa che è un deterrente, insomma. Ma che vuol dire un deterrente? Ragazzi, quando un orso è pericoloso per l'uomo, lo si abbatte, punto e basta. Cioè, oppure lo si limita, adesso non so se l'unica strada sia l'abbattimento, ma un governatore che ordina l'abbattimento per un orso che ha aggredito, sembra senza alcun tipo di provocazione, due signori che si sono addentrati in un bosco, e il padre è dovuto intervenire perché altrimenti il figlio... Ma chi l'ha detto che non c'è stato nessun tipo di provocazione? Ma ragazzi, ma l'orso non dà una sua versione. Non c'è la versione dell'orso. Non c'è la versione dell'orso. C'è la versione di questi due signori che non si capisce perché dovrebbero mentire, caro Giuliano. Dai, su. Perché tutti sono a caccia di farsi il selfie con l'orso per poi poterlo pubblicare. Figuriamoci il selfie con l'orso. Ma mica stiamo al cinema qui. Ma che selfie con l'orso? Basta andare in montagna con dei petardi nel bosco e se. Ma non lo so. Se questi hanno commesso delle cazzate, hanno fatto delle cazzate, sicuramente la storia è. No, parità diversa, ma non è così, non sembra essere così. Luca dalla provincia di Trento, dai, tutti stanno dalla parte dell'orso. A me mi fanno incazzare quelli che sono dalla parte dell'orso. Mi fanno incazzare. Un orso aggredisce un ragazzo di 28 anni, gli stacca quasi la gamba. Il padre va in soccorso, lo salva, viva l'orso. Ma vaffanculo, va, Luca, dimmi. Sì, io sono uno che non è a favore dell'orso, tanto per capirci subito. Buonasera Giuseppe, buonasera Davide. Buonasera direttore. A me fa abbastanza strano, ho sentito l'intervento delle 20 e anche quello che c'è appena stato, pieno di gente che parla di orso senza mai averne visto uno, senza mai essersi trovata di fronte a un orso nel bosco. Vi assicuro che a me non è capitato, però conosco persone non che è simpatico, capitato. Certo. Non ti puoi portare il petardo o pensare di dissuaderlo, perché non è simpatico. L'orso è affamato e se ti punta ti fa male. Dopodiché la soluzione è l'abbattimento? Non lo so. Ma ragazzi, però adesso qui non possiamo fare. Non possiamo a caso dicendo se abbattiamo sì, abbattiamo no. Ho capito, ma non è che il governatore o chi governa là, chi comanda la situazione in Trentino sia uno sporco assassino che non vedo l'ora che vengono fatti fuori gli orsi. Se decidono per l'abbattimento, decidono per l'abbattimento. Non è il capo del Ku Klux Klan. Non è il capo. E dai, su ragazzi, l'abbattimento, un orso in più o in meno non ci cambia un cazzo. Un essere umano in più o in meno sì, questo è il punto. Chi non vede la differenza tra un orso e un essere umano, secondo me è un cretino, punto e basta. Assolutamente, ma se vogliamo essere critici, la domanda dovrebbe essere: ma perché si sono spesi anche soldi pubblici? Va bene, ma facciamo l'orso, va bene, d'accordo, benissimo, facciamo tutto questo discorso porta a porta, quello che volete. Alla fine resta una cosa: un orso aggredisce un ragazzo e gli stacca quasi una gamba, il padre interviene per salvarlo, anche lui rimane ferito, sono in ospedale, il governatore di una regione dice abbattiamo l'orso e la gente dice viva l'orso, andate a fare in culo. Italiani! Italiani!